È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Berlusconi torna sulla colpa della sconfitta elettorale. Caro Parenzo, buonasera, in viaggio sull'Eurostar, sulla freccia argento. Senti cosa dice questa mattina da Belpietro. Lo dice in maniera sintetica, però dice sempre le stesse cose. La crisi economica, i candidati, la tenaglia informativa. Il governo paga dazio nelle crisi, c'è uno scontento verso il governo in carica che è provocato dalla crisi economica mondiale. Qui da noi il risultato credo che si spieghi anche con altri fattori, magari la scelta di alcuni nostri candidati e certamente la tremenda tenaglia informativa che è stata messa in atto contro di noi dalla stampa, dei grandi giornali, dalle radio, dalla TV, soprattutto dalla Rai e dalla Sette. La tenaglia informativa cita anche la radio, cita anche la radio, Berlusconi. Con la zanzara ce l'ha un po', eh? Tu dici? Bah. Ma forse un po' sì, perché siamo stati, come dice signora? L'acqua, prenda. Dica, le perché sono in diretta alla zanzara, la saluta il signor Cruciani. Prego, prego, sì. Pronto. Hai salutato la signora della freccia argento? Sì, mi saluta. Sei molto affascinante, ha ragione. Beh, ancora. La signorina. Vabbè. Signorina Monica. Va bene. Particolare. Dettagli, sì, dettagli. Bravi. Ragazzotti che mi fischiano, senti. Noi per esempio non andiamo mai a disturbare i comizi della sinistra, sono loro che ci mandano le squadre organizzate. Ieri per esempio io sono stato applaudito tutto il giorno, dovunque sia andato, ma all'inizio della giornata c'è il solito squadrone di 20 ragazzi organizzati dalla sinistra che quando sono arrivato all'Altare della Patria ha inscenato una dimostrazione contro di me e i giornali hanno potuto scrivere Berlusconi fischiato e applaudito. Poi dice sì alle primarie, seppur con qualche riserva. C'è chi propone le primarie anche nel Popolo delle Libertà. Ma guardi, io non sono contrario, purché si arrivi ad essere certi che i votanti siano davvero dei sostenitori del nostro partito e non invece magari degli infiltrati della sinistra. Cioè in sostanza ci dovrebbe essere una sorta di iscrizione preventiva. Sì, una sorta di preventiva. Registro di coloro che vogliono partecipare alle primarie. E non quindi come accade a sinistra dove tutti si presentano ai gazebo e chiunque può firmare e dire la sua. Anche se non appartiene alla sinistra. Anche certo. Anche se. Vabbè, non liberali questa cosa. Gli infiltrati della sinistra, l'incubo di Berlusconi per quello che riguarda le primarie. Bah. Questa mattina, durante la trasmissione Agorà, ho visto, era accanto a me, uno splendido, meraviglioso professor Ferrarotti, un grandissimo uomo di spettacolo, oltre che naturalmente un professore, ma in questo caso un grandissimo uomo di spettacolo. Berlusconi, è meglio che non parli, sentite. Se uno mi domandasse a bruciapelo, lei potrebbe farlo. Cosa deve fare Berlusconi? Pensare un po' di più e agire un po' di meno e non parlare affatto. Delirio di onniscienza, non di onnipotenza, state attenti, di onniscienza. Una delle caratteristiche, se capisco bene le cose, poi del resto l'uomo mi interessa fino a un certo punto, una delle caratteristiche di Berlusconi è quella di ritenere di non aver bisogno di alcun consiglio. Ora questo sa come si chiama psicologicamente? Come? Dica. Posso dirlo? Anche questo penso tendenzialmente, che sia ma no, ma io sono una persona del vecchio stato, quindi delirio di onniscienza. È stata tua la colpa allora Bene, 800 24 00 24, questa è solo una parte, siamo solo all'inizio della zanzara, caro Parenzo. La linea va e viene, invece la linea è sicura con il sindaco di Firenze, Matteo Renzi. Buonasera. Eccoci, come va? Come andiamo? Beh, bene, brutte le immagini però di Parenzo che cerca di barcagliare, come si dice a Firenze, la signora Monica sull'Eurostar. Sì, una cosa tremenda. Un momento trinta, ecco. Sistemiamo. Una cosa tremenda, una visione... No, signora Monica soprattutto. Sì, ma cerca lì di mediare un appuntamento, un numero di telefono sull'Eurostar, sulla freccia argento, una cosa vergognosa. No, diciamo. Questa informazione è aggravata. Sì, scene che non avremmo mai voluto commentare. Vabbè, Senta, signor Renzi, innanzitutto vorrei chiedere una cosa. Lei andrà a votare al referendum? Sì, andrò a votare. E come vota? La settimana prossima... Si può dire come vota? Nel dettaglio... Come voto? Ho promesso di dirlo la settimana prossima, non che la gente gliene frega neanche, ma insomma ho promesso di dirlo la settimana prossima, comunque quindi lo dico la settimana prossima all'interno di un'iniziativa che facciamo a Palazzo Vecchio. Per cui non è scontato che lei voti 4 sì come l'indicazione del suo partito? No, guardi, c'è quel referendum, quello il secondo dell'acqua, quello sulla remunerabilità dell'investimento su cui stiamo ancora, non ho ancora deciso. È su quello però che un po' me l'hai già fatto dire, quindi che gli altri sono tre sì, quindi dunque tre sì, me l'hai già fatto dire, vabbè, appunto tre sì e su un quarto. Sto perché c'è da un lato un'esigenza di dare un segnale dell'acqua, quel valore, quello che si vuole, dall'altro però è anche vero che se non c'è l'investimento, se non vengono garantite delle forme per l'investimento, non si fanno le infrastrutture necessarie a evitare di buttare via miliardi sull'acqua. Lo diceva anche il segretario del suo partito qualche tempo fa, poi ci ha ripensato. Io però non ci ho ripensato, cioè ci sto pensando ragionevolmente, insomma martedì prossimo lo diciamo, però lei... La ringrazio perché ha bruciato la notizia ai giornalisti locali, non che sia una grande notizia. Insomma, vabbè, come è il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, che dice voto 3 sì e su uno ci rifletto e probabilmente voto no, così? Ma ragionevolmente adesso vediamo. Voto no, vabbè. Comunque, questo sulla remunerabilità dell'investimento è una cosa molto tecnica, in soldoni io mi sento un po' in contraddizione se da un lato voglio sistemare l'acquedotto, fare il collettore del depuratore, cioè la cosa che consente di non scaricare a 110 mila fiorentini la roba in Arno, sì, perché succede così adesso ancora, e però contemporaneamente non ho trovato le formule economiche per risolvere il problema. Mi pare che si debba unire serietà e concretezza, tra l'altro quella è una norma nazionale che ha approvato il centro-sinistra, firmata dall'allora ministro Di Pietro, quindi c'è proprio una roba un po' complessa, diciamo. Senta un attimo, ha sentito Grillo come ha definito Pisapia un giorno dopo la vittoria elettorale di Pisapia, Pisapippa, con la sua solita... Con il suo solito stile e la sua solita eleganza, credo che Giuliano Pisapia abbia vinto una battaglia che sembrava impossibile. E lei come Grillo come lo definirebbe in questo caso? Come definirei Grillo? No, in questo caso naturalmente. No, ma uguale, Grillo è indefinibile. Grillo è uno che spaccava i computer e poi adesso ci fa tutta la solfa e l'omelia laica sulla rete. È uno che faceva la pubblicità agli yogurt e che adesso parla contro il commercio. È uno che dalla mattina alla sera ci racconta cose su cui poi dopo 2 o 3 anni cambia idea. Va bene così, Grillo è indefinibile, inqualificabile. Sono i contenuti di Grillo. No, ma io sono d'accordo, con me sfonda una porta aperta con me. No, ma i contenuti di Grillo andrebbe, cioè noi dobbiamo distinguere tra quello che Grillo è e il suo stile, i suoi baffa, la sua eleganza innaturale, e dall'altro lato i contenuti che pone, perché quando Grillo dice tagliare i costi della politica, investire sulla sostenibilità ambientale e investire sulle nuove tecnologie. Però si sentono solo i baffa, come mai? Si assumono, no, ma lui si prende 3 argomenti veri, di discussione vera. E come dire, e li rovina, molto più nobili dello stile di Beppe Grillo, e li butta in vacca, però questi argomenti Li butta in vacca, anche se poi prende l'11% in Emilia, attenzione a dire che li butta in vacca, però prende un sacco di voti, e io credo che vale per tutti, soprattutto per il centro-sinistra, il compito di smontarglieli, cioè di assumerli come centro-sinistra, come argomenti su cui noi diciamo le nostre idee, e quindi non rispondere a Grillo. Dopodiché per quello che dice, per come si esprime, è inqualificabile, lei l'ha detto. Dopodiché, se questi sono i risultati, fossimo tutti Pisapippe come Pisapia, va bene, perché Pisapia ha vinto una battaglia stretta. Altro che Pippa, insomma. Altro che tutto tranne che quello. Può stare simpatico o meno, è un signore che ha vinto una battaglia che 6 mesi fa sembrava neanche giocabile. Diciamo. Senta, Renzi, però a proposito di battaglia non giocabile, giustamente un quotidiano oggi fa notare che il suo lessico... è un po' cambiato, cioè lei diceva fino a qualche mese fa bisogna sbarazzarci di alcuni dirigenti anche in maniera, secondo me giustamente, brutale, pane al pane, dirigenti del Partito Democratico, Bersani stesso, D'Alema, Veltroni, il momento della rottamazione. Adesso invece in qualche modo riconosce la vittoria del segretario e non è che rottamano lei o hanno, lo hanno già rottamato, no? Può darsi tutto, per carità. Io non credo, cioè, di si aver sente cambiato... si sente rottamato? Non mi sento per niente rottamato, mi sento molto felice per i risultati delle amministrative, perché hanno detto tre cose. Uno, hanno detto che si vince laddove si fa le primarie. Quindi cioè il trionfo dello stile Renzi, della... No, perché è il trionfo delle primarie. Addirittura le vogliono fare anche di là. Adesso stanno discutendo tra Alfano, Formigoni, Berlusconi se farle anche al centrodestra. Dunque si sente un po' il padre, per quello che è successo a Firenze, si sente un po' il padre, è anche sua la vittoria. Mi dica la verità. Io non sono neanche il figlio, io sono un figlio illegittimo delle primarie, più che il padre putativo, non so come dire. Il punto centrale è che uno, hanno vinto le primarie, e questo non si può contestare. Due, hanno vinto molto più le persone e i candidati che non i partiti e le alleanze. Questo sì. Penso che questo sì, però mi perdoni, questo non era così, non è così scontato in questi giorni nel dibattito sociologico del post voto. Perché comunque nel bene e nel male ciascuno avrà le proprie opinioni. Sì. Là dove hanno vinto dei candidati, hanno vinto loro, non hanno vinto. Poi le la terza cosa? E il terzo coso è che oggettivamente ha vinto una logica di ricambio che porta ad avere un sindaco, finalmente uno più giovane di me tra i sindaci dei comuni capoluogo, ma in realtà c'era già quello di Pavia, ma adesso c'è Zedda che ha fatto una bellissima... Però la media di quelli eletti è 53-54, comunque certo più non è male. Il ricambio, mi perdoni, il ricambio c'è stato ed è oggettivo. Io continuo a pensarla allo stesso modo di come la pensavo un anno fa e di come la penso sei mesi in ordine, di come la pensavo sei mesi fa, in ordine all'esigenza di che cosa? Della rottamazione intesa come ricambio dei gruppi che stanno in Parlamento da... E dunque Bersani, che sembra essere indicato Bersani da tutti come leader futuro che dovrebbe sfidare chissà chi nel centrodestra, farà le primarie, perché se rendo conto lei lo appoggerebbe? Lei lo appoggerebbe in questo momento? Vediamo chi sono i candidati. Bersani farà le primarie. Se vuole la mia opinione, Bersani ha vinto, adesso ha una grande chance, perché ha vinto una battaglia importante, che è quella di portare un centrosinistra a prendere città che sembravano imprendibili. Adesso il suo compito qual è? È quello di utilizzare i prossimi mesi non per ritornare ai vecchi schemi del facciamo il governo di Sante, quali come la di Santa l'Unione, Leanza, l'Unione, eccetera, coalizione. Eccetera. Facciamo invece, proviamo a affrontare tre o quattro questioni precise, puntuali, dove si possa ragionare. Cioè, se vuole fare l'Unione, se vuole fare l'Unione è morto. Ma non solo l'Unione, anche la Santa, come si chiamava? La Santa Alleanza. Perché, a proposito, qualcuno ha notizie di che fine ha fatto, che so, il terzo polo? Cioè che qualcuno, non pervenuto, come diceva Parenzo. Mi permette di dire che quando in trasmissioni fatte con lei, uno dei pochi del centro-sinistra che diceva ma non inseguiamo fini, certo. Eravamo noi diciamo... Lei? Veniamo chiamati lei. Informatori. Va bene, traffico, torniamo subito, resti lì. Parenzo, ci sei? Parenzo non c'è più, è sparito sulla Roma Firenze. Bah, 800 24 00 24, però mi dica la verità, Renzi, lei un Bersani candidato ce lo vede o no? Candidato, cioè alle primarie sicuramente, però insomma un Bersani che sfida quello di centrodestra, è una formula vecchia, una persona che può avere... Lei non mi sembrava piuttosto pessimista mesi fa su questo, comunque molto negativo, conferma questo o no? Io credo che dipende molto da che tipo di schema si gioca, perché come al solito se lei vuol fare una partita tra due deve dire chi è l'altro, chi è oggi il candidato. A mio giudizio ci sono tutte le condizioni perché il prossimo candidato non sia più Silvio Berlusconi. Se non è Berlusconi? Se non è Berlusconi va capito chi è di là, dai, se no si fa il toto nomi come al solito. Quello che è importante è che Bersani prenda atto tra i tanti risultati positivi di un dato che penso debba farlo riflettere. Non è vero che si vince non mettendo il nome del candidato sulla scheda, come Bersani ha proposto al PD e come ha proposto anche nel suo libro. Cioè il nome va messo. Non è tanto il nome, chi se ne frega del nome, no, è l'idea. Certo. Cioè l'idea è che stiamo andando, gli elettori, me la faccia dire così, sono molto più americani di quanto noi pensiamo. Gli elettori scelgono la storia, se è credibile la persona, e votano. E non gliene frega più niente se il partito si riunisce in direttivo, si esprime a favore della larga coalizione o della... Votano più le persone che i partiti, su. E questo è un bene o un male, io non discuto se sia un bene, è un dato di fatto, e questo porta alle primarie, porta al fatto che oggi i partiti non selezionano più la classe dirigente, ma la classe dirigente salva o meno i partiti. Senta, che siano nel 2012 o nel 2013, il sindaco di Firenze si presenta o no a queste primarie? Oppure... No, beh, l'abbiamo già detto. No, l'abbiamo già detto, però sono passati dei mesi dall'ultima volta che ci siamo sentiti, dunque si può rifare la domanda, perché la politica è fatta io anche di fare scelte. Il sindaco di Firenze devo farlo bene. D'accordo, ma dunque lei può escludere al 100% qui, sotto giuramento alla Zanzara, che lei non sarà sicuramente alle prossime primarie, 2012 o 2013, non si candiderà? Lo giuriamo sulla testa di Firenze, non mi pare molto elegante. No, compagno che lo giurava sulla testa della mamma. No, no, giuramento così, giuramento. Lo giuro sulla su Firenze, diciamo, quindi su Firenze. Un margine di dubbio. Senta un attimo, ma è vero che c'è un po' l'illusione della vittoria nel centro-sinistra in questi giorni? No, io credo no. Vabbè, c'è una giusta euforia, d'accordo, però abbiamo c'è goduto un po', era tanto che non capitava, mettiamola così. Abbiamo goduto un po'. Ora poi vediamo di non perdere, ma per una volta che si vince non eravamo più abituati, capito? Quindi è stata una cosa abbastanza, e poi devo dire che è stato bello vedere anche il grande desiderio di partecipazione di tante persone nuove. Il PD non deve fare l'errore di intestarsi questa vittoria da solo. È una bella vittoria, una bella boccata di aria fresca. Beh, anche perché ha i suoi problemi il Partito Democratico, nel senso, a livello di voti, certo. Diciamo anche che sta molto meglio di un mese fa. Sì, certo. Buoni a Milano. Però non deve intestarsi, non è una vittoria del PD. Una vittoria anche del PD. Sento una cosa, ma sono preoccupato qui per il funzionamento di Renzi. Perché mi sta coglionando il sindaco. Io sono qua a lavorare per voi. Dunque, tu dici che quello che non si presenta alle primarie è un giuramento finto perché l'ha fatto su di te. Non ci crediamo, certo. Faccio un passo in più, Renzi. Non mi candiderò alle primarie, lo dichiaro ufficialmente. Lo giuri sui figli di Berlusconi, almeno? Almeno sui figli di Berlusconi. Fate per bene. Mi avevano detto che avremmo dovuto parlare di tante cose, di incidenti stradali, eccetera. Vedo che incidenti stradali? Già... Che è successo? Incidenti? No, perché l'ha fatto un'inserita. Vabbè, quello è un po' per turlupinare, sai, gli uffici stampa. No, sto scherzando. Ci tenevo però molto invece a dirla quella cosa, poi, prima di lasciarti, sì. Che questa iniziativa che abbiamo lanciato a Firenze... Sì. Per l'introduzione di pene più aspre, più severe, più dure verso chi guidando ubriaco, drogato, uccide una persona. Quelle sono sempre benemerite, sono sempre ben accettate. Abbiamo fatto un'iniziativa molto bella, che peraltro parte da Firenze, perché noi prima che fare le iniziative all'esterno dobbiamo cercare di tenere meglio la città, e quindi tutta una serie di iniziative che riguardano noi, e per mettere a posto le strade e compagnia bella, però contemporaneamente assieme all'associazione Lorenzo Guarnieri. Ma come si fa? Questa è una proposta, non è che lo potete fare voi. Da un lato c'è un'esigenza nostra di tenere meglio, di combattere gli incidenti stradali sul nostro territorio. Quello attraverso le vostre cose. Ed è il nostro progetto www. E poi la proposta di inasprire le pene. La creazione di un reato nuovo, di una configurazione che si chiama omicidio stradale, perché oggi, come è accaduto anche recentemente in Lazio, uno si mette alla guida ubriaco o drogato, uccide una persona e sostanzialmente non gli fanno niente. Bene, questo è giusto. E allora se chi vuole firmare può firmare sul sito www.occhioallastrada.it per www.occhioallastrada.it. Lo rilancio io, così siamo a posto. Senta Renzi, ma Senta, chi è che non vorrebbe più vedere candidato nel PD alle prossime elezioni? Chi non vorrebbe vedere in lista proprio qualche nome? No, guardi, non è un problema di candidatura alle primarie. Sulle elezioni io dico soltanto, se c'è una regola dello statuto che dice che dopo tre mandati si fa spazio ad altri. Quindi niente bindi. No, ma lasci stare i nomi e i cognomi. No, perché bisogna fare i nomi. Renzi ce l'ha con Parenzo. Ecco, se Parenzo fosse stato per 25 anni in Parlamento, io sarei contro la candidatura di Parenzo. Quindi basta vedere chi è stato. La regola. Però, per esempio, Rosi Bindi, l'altro giorno Gad Lerner ha detto sarebbe un meraviglioso ticket Bindi Vendola. Lei ce la vede Bindi come candidata? Silenzio. Candidati dalle primarie Bindi e Vendola insieme contro, che ne so, Bersani e Bindi Vendola, lei non lo voterebbe mai. Che voterebbe tra Bindi e Vendola lei? Tra Bindi, Vendola e Bersani? Vendola e Bersani che gara, fa? Però non mi faccia il gioco della Bindi, Vendola e Bersani il gioco della torre, chi lui sì, lui no. No, Bindi, Vendola e Bersani si butta da Ponte Vecchio lei. No, Ponte Vecchio non ci si butta. Dopo ci hanno buttato le scene di Savonarola, basta e avanza, non ci si butta più nessuno. Però non sceglie nessuno tra Bindi, Vendola e Bersani. Diciamo vediamo chi sono i candidati, può darsi che siano questi. C'è anche una norma dello statuto del PD che dice che il candidato segretario è automaticamente il candidato alle primarie del partito. Spero che non si faccia le primarie così. perché quando le abbiamo fatte così non le abbiamo vinte, non le abbiamo vinte né a Cagliari né a Milano, cioè per uscire, cioè allargate, ho capito, allargate, allargate. Le primarie devono essere libere, poi se la Bindi si vuol candidare e Vendola si vuol candidare, ma perché dobbiamo dire loro di no? Vorrei dire che Rosy Bindi e Nichi Vendola insieme agli altri, a Bersani e agli altri diranno: queste sono le nostre idee per l'Italia, però parlando dell'Italia, questa roba della riduzione dei costi della politica la teniamo soltanto come spot elettorale o la facciamo davvero? Io ho deciso, per esempio, io ho dimezzato il numero degli ho visto degli assessori, io ho 16 posti per statuto e ne ho fatti 8. Dando le competenze agli altri, sì, ma questo ha fatto, su questo ha fatto benissimo. Però non lo dico mica soltanto per me, ma perché fatto non bene. Facciamo altrettanto dei parlamentari? Senta, oggi D'Alema in un'intervista a Repubblica dice che comunque la possibilità di fare, deve essere tenuta viva la possibilità di fare una coalizione dell'UDC a Vendola, è pura utopia? No, ci sta tutto, può darsi, per carità, l'importante è smettere di parlare soltanto delle coalizioni, cioè io penso. Beh, ci sta o non ci sta? Il presidente D'Alema. Ma dipende da che cosa vai a fare, per esempio da me. In città da me Vendola sta in maggioranza, l'UDC per adesso no, poi può darsi che domani cambi idea, ma che ne so, ad oggi non c'è, non avrei mica problemi a tenere insieme dall'UDC a Vendola sui progetti concreti. Il problema è per far che, cioè per mesi si è discusso di coalizioni e di alleanze come se fossero l'unica cosa interessante, convinti sulla base di un modello culturale che secondo me non funziona più, cioè che i partiti rappresentino qualcosa e che mettendosi insieme gli iscritti siano disponibili a credere ai dirigenti dei partiti. Io invece penso, può darsi che sbagli, che i dirigenti oggi non siano così determinanti nella scelta. Dipende da chi è il candidato. Se c'è un candidato credibile che racconta una storia credibile, vince sul, di cui sul uno resto. Si può affidare, uno può anche tenere insieme Casini e Vendola. Parenzo, dove è andato a finire quello scomparso? Il giornale radio, 800 24 00 24. Ci sentiamo tra qualche istante. Devo dare la linea alla pubblicità. Eccoci, caro Parenzo, come stai? Sei pronto? Molto bene. Sei fermo? Ti si può raggiungere? Fuggiasco. La città del? Ghibellin Fuggiasco. Ma oggi hai una voce... Sei stanco? Ti sento stanco. Come? Ti sento stanco, provato. No, però abbiamo fatto una grande battaglia. Una grande battaglia da ora. No, la voce, devo parlare piano perché sono nel civilissimo treno. Buonasera. Benvenuti a bordo. E adesso ti metti a fare le cose, il arrotondo. Il capo 3. Il capo 3. Biglietto, buonasera. Sì, buonasera, biglietto. Ecco, no, accogli bene le persone. Sì. Puoi anche dire alle persone che sei in collegamento con la Zanzara. Chiedi anche. Hello? You are looking for your seats? Yes, italiana. Ah, scusi. Pronto. Hai cercato di rimorchiare subito una sul treno. No. Solita cosa. Perché dai solita, informazioni? Solita. Biglietto, solita sceneggiata. Biglietto, scusi. Chiedi il biglietto. No, come? Gliel'ho fatto vedere un paio di Ma dobbiamo fare un nuovo controllo. Chiedo scusa. Pronto. È controllato, fatti dare il biglietto. Sì. Vediamo. Sì. Ah, è regola? Sì. Pensavo che sia, se no mi chiedo. No, è lei che Ah, no, è regola, è tutto a posto, mi pare. Lei ha le credenziali per fare questo controllo? No, sì. Ci lo fa vedere? No, sto scherzando, sono un giornalista, sto facendo una ghighina per Radio 24. Allora ecco perché... Chiedo scusa. Sì, chiedo scusa. Ti ha detto che sei un rompiscatole, naturalmente. Abbastanza, sì, ha ragione. Ho detto che stavo facendo una ghighina per Radio 24. Ma dovevi andare avanti nello scherzo. Adesso io avanti, vado in altro, vai in un altro vagone e fai questo scherzo. Scusi, signor Renzi, siamo come... Buonasera. Siamo come ad amici miei. Stiamo per partire, Come? No, io dico, io stiamo per partire. Vede che è quasi verde? Conviene salire, sa, butti la sigaretta, che sennò butti. Ma che stai? Stai continuando a fare il controllore, Renzi, sul serio. No, la sigaretta non in terra, se è a Firenze. Infatti, non per terra, se è a Firenze. Dice il sindaco, non lo buttare per terra. 160 euro di multa, però va bene, le do a Firenze. Lei è un cittadino di Firenze? No. Perché sono al telefono col sindaco di Firenze, che prega gentilmente... Dovrebbe essere ospita, fallo prendere. Sì, ma gli dici di non alla sigaretta. Le passo il sindaco di Firenze. No, salve. Lei è di Firenze, signor cittadino? No, sono di Padova. Però non butti la sigaretta per terra in stazione, perché altrimenti... No. Quanto è di multa, sindaco? 160 euro. 160, capito? Ma è parente, no, paga parente. È 169, ma è importante che lei non butti la sigaretta per terra, poi può fare tutto quello che vuole, fumare non è mica un crimine, eh? Cioè lei può fare quello che vuole. Per carità, basta che non butti, perché il sindaco le ha detto qui in diretta alla Zanzara che sono 160 euro di multa, così, così, noi la avvertiamo, non c'è niente di... Non c'è niente di strano. Parenzo, riappropriati del telefono un attimo, mando i titoli del TG3 intanto. Buonasera a tutti. In questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer e ascoltate cosa deve dire. Berlusconi sui referendum, voto inutile, nessun effetto sul governo. Bersani sul nucleare, voto utilissimo. Scajola ospite al TG3. Resta da risolvere il nodo della sostituzione di Alfano alla giustizia e il premier al Quirinale dopo i colloqui di questi giorni con i capi di Stato esteri. Dopo l'incontro con governo e sindacati, Fincantieri ritira i 2.500 licenziamenti e a Roma migliaia di lavoratori del gruppo. A 9 giorni da referendum, confronto le ragioni dei comitati del sì e del no sui 2 quesiti per la privatizzazione dell'acqua. L'inchiesta sul calcio scommesse si allarga alla Serie A. In un'intercettazione fantasma verrebbe fatto il nome di De Rossi che replica «Io non c'entro». Il barcone affondato, la Croce Rossa parla di 150 corpi recuperati. Tunisi smentisce, l'ONU la peggiore tragedia nel Mediterraneo. In Yemen l'opposizione si rivolta contro il presidente Saleh, passa all'attacco. Bombe sul palazzo presidenziale, uccise 3 guardie del corpo, ferito il premier. Eccoci, eccoci, 800 24 00 24. Parenzo, tutto a posto? T'hanno già menato? Arancio, birra, coca? Ti hanno già menato? Ti hanno già menato sul treno, no? Vabbè, l'importante è che non ti picchiano. Allora, voglio chiedere al sindaco di Firenze cosa ne pensa del fatto che Prodi era sul palco con Bersani, il ritorno di Prodi, si parla di Prodi al Quirinale. Lei che dice? Prodi al Quirinale. Ma le candidature per il Quirinale sono sempre difficili da fare prima, no? Per il Quirinale ci vuole una persona di saggezza, di equilibrio, che sia un punto di riferimento per tutti. È anche vero che molto dipenderà da chi vince le elezioni. Se abbiamo fatto male i conti, tutto da quello. Vota nel 2013 dopo le elezioni politiche. Dunque parlare di Prodi al Quirinale è come parlare a sproposito, insomma, questa è la realtà. No, assolutamente. Invece Prodi è una candidatura che se il centro-sinistra vince, secondo me, ha delle chance di essere utile. Poi non so se lui lo vorrà fare. C'è anche chi parla di lui come segretario dell'ONU. Prodi può fare tutto oggettivamente per la sua esperienza che ha fatto. Quindi non mi pare che sia una ipotesi astrusa. Però per come stanno le vicende credo che sia fondamentale capire chi vincerà le elezioni politiche del 2013. Certo, 2012. Su questo non c'è dubbio. No, perché bisognava capire se il mandato di Napolitano scadesse prima o dopo la fine del... No, ma quello va prima ci saranno le elezioni e poi come ci sarà l'elezione del Presidente della Repubblica, questo mi sembra abbastanza scontato, come è successo l'altra volta. Peraltro sarebbe una follia e tra l'altro credo non si possa nemmeno fare. Senta Renzi, ma abbiamo capito chi Renzi non vuol più vedere in Parlamento nella prossima non ce lo tornata. Vuole dire, ma che c'entra il Parlamento, non ce lo vuole dire. Secondo lui bisognerebbe fare un blocco, cioè, applicando lo statuto. Io ho capito, riflettendo nella tratta in cui non siamo stati collegati insieme, ho riflettuto che applicando alla norma quello che giustamente alla lettera quello che giustamente dice il sindaco Renzi, più di metà, oltre la metà del gruppo parlamentare del PD non dovrebbe più sedere in Parlamento. E poi moltissimi non potrebbero nemmeno candidarsi a fare il Presidente del Consiglio, in teoria. Bravo Cruciani. In questo momento la teoria della rottamazione mi sembra un po' in disarmo, signor Renzi, no? È una vostra opinione, per me è più viva e più forte che mai. Molto meglio che le aranciate e le coche che sta vendendo Parenzo sull'Eurostar, assolutamente. È più viva e più forte. C'è la crisi, sindaco, c'è la crisi, a rotondo, a arancio. Senta, Montolivo, lei, per parlare di cose più serie, molto più serie, lo considera un traditore, tiri fuori il suo anima pugnace da tifoso della Fiorentina. No, non lo considero un traditore. Non lo considero un traditore. Mi dispiace da morire, ma non lo considero un traditore. E i Della Valle stanno smobilitando un po'? No, non credo, però credo che sia naturale che se la società è disponibile a mettere sul mercato un giocatore come Montolivo, se Montolivo non so dove andare. Corvino ha sempre detto: signori, noi non tratteniamo nessuno. Bisogna lasciarlo andare, non è che bisogna fare bracci di ferro. Insomma, abbiamo visto partire uno che si chiamava Roberto Baggio, abbiamo visto partire Battistuta. Dunque, appello a Della Valle, se vuole andare, lasciatelo andare senza trattenerlo, no? Ma che credo che sia la linea che hanno già dato, se ho capito bene. Vediamo un po' che cosa succederà. Spero che Fiorentina faccia un buon mercato. Senta, ma il Guardiola della politica italiana chi è, dato che lei ha fatto un pranzo pure con Guardiola? Guardiola è imparagonabile, è il numero uno. Appunto. Guardiola nel centro-sinistra vincerebbe a mani basse. Dunque non c'è ancora uno all'altezza di come Guardiola? Assolutamente no, uno che è nel vivaio, che fa tutta l'esperienza da giocatore, che vince tutto e che è un grande motivatore. Guardiola mi ha detto, se io non soltanto io rinnovo il contratto anno per anno perché ho voglia di rimettermi in gioco, sì, ma se potessi rinnoverei una volta ogni sei mesi, da quanto ho voglia e energia di far capire ai miei giocatori che io per primo sono... Dunque, il centro-sinistra avrebbe bisogno di un Guardiola, ancora non ce l'ha. Stupenda, ma questa cosa è... Guardi, basterebbe un Guardiola in ottavo, in sedicesimi, perché Guardiola è veramente un grande. Bene, grazie da Firenze, a presto. Buona serata, grazie. Che è successo, Parenzo? Che è successo? Che non hai capito questa cosa qua di chi non vorrebbe, chi vorrebbe le prime? È tutto confuso. È tutto finito, amico mio, è tutto finito. È tutto confuso, t'hanno picchiato lì sul treno, no? No, picchiato, adesso ho incontrato mia moglie che è appena salita a Firenze e tutto bene. Si è chetato, insomma, per modo di dire. Matteo, provincia di Bari, è un ascoltatore che chiama. Alla Zanzara, gentilmente, dunque trattalo bene per il momento. Matteo, grande, buonasera. Matteo. Bravo. Sì, buonasera. Dica. Io credo che Renzi sia naturalmente e certamente l'esponente migliore che il PD abbia, ma non sono d'accordo sul fatto che lui dice che Bersani ha fatto una bellissima figura dopo queste amministrative. Ho capito, questo dice. Su Milano abbiamo un vendoliano a rappresentare il centrosinistra. Su Napoli abbiamo visto De Magistris affermarsi. Non vedo quale sia la vittoria di Bersani, visto che nei due comuni che contavano di più. Vabbè, il discorso sarebbe lungo. A Milano Bersani ha fatto proprio il candidato, comunque lo sfidante del Partito Democratico alle primarie di Pisapia era anche il capolista del Partito Democratico, ha fatto la campagna elettorale insieme a Pisapia e probabilmente sarà anche assessore o comunque avrà un ruolo di spicco nella giunta quando ci sarà. E certamente a Napoli è una situazione particolare in cui il Partito Democratico ha perso, però dopo ha appoggiato De Magistris nei 15 giorni dal primo turno al ballottaggio. Vediamo cosa ne uscirà fuori a livello di giunta e di collaborazione. Di fatto il PD non esprime un candidato né da una parte né dall'altra. Sì, però ha vinto a Torino, a Bologna. Per carità, no? Poi le difficoltà del Partito Democratico ci sono tutte, però non è che ha perso, le elezioni. Sì, a Torino avrebbe vinto anche Mr. Bean nel PD dopo due anni. Non è mai così. Anche la Moratti pensava che chiunque si fosse candidato all'altra parte avrebbe vinto lei. Invece non è così. Per cui non bisogna mai sottovalutare gli elettori. Mai. Certamente. Poi, bene, Matteo, che vuole aggiungere? Sì, volevo chiedere a Parenzo se gli stessi bambini che hanno cantato la canzone contro Berlusconi avessero cantato meno male che Silvio c'è o comunque qualche altra canzone a favore di Berlusconi, lui come si sarebbe posto davanti a questo utilizzo del bambino? Mi sarei posto che se non sono stati ovviamente costretti, cioè se non è stata fatta alcuna violenza. Ma come non sono stati costretti? Beh, per forza è stata fatta violenza, ma di che stai parlando? E allora viene fatta violenza anche quando i genitori portano i bambini minorenni a sfilare. Ma cosa c'entra? Ma quello che i genitori fanno fare ai bambini è sempre una loro decisione. Bisogna vedere cosa gli fanno fare ai bambini, cosa fanno fare ai bambini. Appunto, trovo di gusto e disdicevole il fatto delle parolacce dei bambini. Sì, d'accordo, ma io ti ripeto per l'ennesima volta perché pare che non ti sia entrato ancora in testa abbastanza bene. È entrato tutto, direttorissimo, solo che voglio dire, qui non giochiamo su sta roba di bambini. I bambini sono quelli lì, credo che si siano anche divertiti. È veramente un papà di cattivo gusto, ma non sta a me giudicare. Lui dà l'educazione ai suoi figli che meglio ritiene. Io la ritengo di cattivo gusto, non lo ritengo uno scandalo. C'è qualcuno che ti sta osservando nel treno? Fate scendere da questo treno, Parenzo, che ci sta stressando tutti. Però oggi è di un'eleganza imbarazzante, dovreste vederlo. Sei molto elegante, come? Ma è qualcuno che evidentemente scrive dal treno perché ti sta guardando. Adesso mi tiro una bottigliata di treno, aspetta che mi nascondo, mi rimimetizzo. Arancio Biroco, che è la prossima fermata a Bologna. Demetrio da Roma intanto, buonasera. Sì, buonasera. Mi collego, approfitto di questo riferimento alle canzoncine per fare una riflessione su questa cosa, perché sono diversi giorni che sento trattare l'argomento. E mi chiedo se è più volgare una canzone cantata da dei bambini che pronunciano solo le parole merda e cacca, o è più volgare la serie di bugie, di misfatti e di tutto il resto che combinano questi politici. Per me una bugia è molto volgare. Lei non ha capito niente, Demetrio, mi dispiace per lei, ma non ha capito nulla. Se non riesce a vedere la differenza tra la canzone dei bambini inculcata da un genitore a sua figlia e alle amiche e agli amici ma di sua figlia inculcata? Come perché inculcata? Demetrio, ma adesso non mi faccia sbottare perché stasera non ho voglia. No, ma sbotta pure, perché la sbotta anche quando vediamo le pubblicità praticamente di Berlusconi, dove ci sono decine e decine di persone Lei sta delirando. Quelle non sono inculcate. Lei sta delirando. No, non sta delirando. Non vede la differenza, sta delirando, non vede la differenza e purtroppo mi dispiace per lei, non vede la differenza. Mi dispiace sempre per chi non la pensa come no, lei. No, non è pensare, non vede la differenza, non è un pensiero. Cioè, quando uno si trova di fronte ad una scena di questo tipo, c'è un signore che mette in moto dei bambini di 6-7 anni e li fa e fa quello che fa, quello che abbiamo visto, cioè sì. Fa cantare a questi bambini una canzone e lei mi parla di altro, lei mi parla di politica, di Berlusconi, non ha capito nulla, niente, no, ma lei, zero. Voi citavate la borsa, resti lì, ma che c'entra la volgarità? Sono due cose diverse. Certo che Berlusconi può essere volgare, chi lo nega? Chi lo nega che può essere volgare? Borsa. Se stufi di vederti tutti i giorni alla TV, prometti tante cose. Vabbè, insomma, la canzone è questa, la conosciamo, 800 24 00 24. Questa è la Zanzara ed è stata una settimana praticamente improntata a questa canzone, alle polemiche che ne sono seguite. Purtroppo il caso è rimasto confinato al sottoscritto qui alla Zanzara, definito matto in senso buono oggi in un bell'articolo di Fausto Carioti sul Libero, e a Libero stesso e a una piccola polemica del giornale, perché purtroppo quando si tratta di cose che riguardano Berlusconi sembra che uno sta qui a difendere, io difendo un principio, quello che i bambini non si possono utilizzare, non si possono usare, di Berlusconi non me ne frega niente, sia chiaro. Parenzo, tu l'hai capita questa? Scusa. Come, scusa? No, fai una campagna anche per i bambini, non devono recitare nei film, ad esempio. Ma se non lo capisci è inutile, cioè io pensavo che ti fossi convertito dopo aver sentito l'autore. No, ma l'utilizzo dei bambini, cioè attento. No, ma l'utilizzo dei bambini per fare queste cose, ma non è così, ma i bambini nei film, i bambini negli spot ci sono da una vita, ci sono sempre, ci saranno sempre. Va bene quello? Ma non è questione. No, chiedo, va bene che i bambini negli spot televisivi, va bene? Certo che va bene, ma bisogna sapere, cioè, naturalmente. Le scuole sono due, o quella di Alessandra Mussolini, che ieri ci ha detto ai microfoni della Zanzara, attenzione, i bambini. Vabbè, ma quella è un'opinione della Mussolini che non vorrebbe i bambini col sederino negli spot, perché secondo lei attizzano i pedofili. E va bene, questa è un'opinione della Mussolini contestabile, secondo me. Ma ho capito, ma non c'entra niente, ma non c'entra nulla. Perché non lo capisci che non c'entra niente? Perché stai montando un bellissimo caso giusto giornalistico su questa volgarità inutile di questo signor nessuno, perché quello lì è un signor nessuno, quello lì. Vabbè. Demetrio, ma che c'entra? Ma non c'entra niente, è uno stile. Stile. E non è la prima volta che i bambini vengono utilizzati, lo sai benissimo. Demetrio, che voleva, quanti anni ha lei, scusi? Io ne ho 37. Ha figli? No. A suo figlio farebbe cantare queste porcherie? Io penso che sì. Farebbe cantare. Bene, lei è da internare, lei è da internare. Sì, ma ascolti, ma lei però fa troppa confusione, mette tutto. Ah, io faccio confusione. Se è lei che fa confusione. Vabbè, ma se mi permette di esprimere il concetto, magari. Dica pure. Allora, fa confusione perché? Perché mettete nello stesso calderone il concetto se è etico o meno far interpretare una canzone. Ma io non ho parlato di etica. Aspetta, mi fa ma non ho parlato di etica. Lei dice che ho parlato di etica. Io non ho parlato di etica. Fa finire il concetto. Vabbè, lei mi attribuisce allora, cose che non ho detto. Io faccio finire. Allora, traduca la parola etica come tramite una parola. Vabbè, che no, continui. Prosegua. Allora, sul fatto se è giusto o meno utilizzare i bambini per far cantare una canzone di parte, perché lei pensa che la canzone è di parte. Ma come di parte? Ma non c'entra niente che è di parte o no, abbia pazienza. L'altra metà del calderone è la discussione sulla volgarità o meno che avete fatto nelle serate precedenti. Allora, la volgarità si circoscrive con quel contenuto che è la parola merda e cacca. Ma non è così, ma non è questo, ma non c'entra niente, ma come fa a non capirlo? Non c'entra nulla. Se lei dà un testo ad un bambino in cui ci sono degli insulti nei confronti di un'istituzione, che sia la presidenza del Consiglio, che sia la presidenza della Repubblica, che sia il capo dell'opposizione, e istruisce questi bambini per fare un coretto, ma lo capisce che è una cosa assurda, sì o no? Non lo capisce, perché lei è talmente ottenebrato dall'odio nei confronti di Berlusconi che non lo capisce, questo è il punto. Non ho odio contro Berlusconi. No, per finta. Non ho odio contro Berlusconi. La canzone non aveva nessun riferimento diretto, e se chi dalla parte di Berlusconi se ne riferiva direttamente alla cosa. Senta, lei è talmente fazioso che non ammette nemmeno, ed è fa bene essere fazioso, non le sto contestando questo, però è chiaro che è così. No, ma io glielo ammetto che era diretta al Consiglio. Scusi. Però effettivamente quando lei voleva far citare il cavaliere al signore che è intervenuto l'altra sera, che gli diceva ma chi è diretta, il signore non lo diceva, secondo me era più fazioso lei. Ah, sono più, cercava, ero più fazioso io. Cercava, io facevo il mio cercava, mestiere, no, cercava, io facevo il mio mestiere, abbia pazienza. Di far dire nome e cognome a una persona per mettere a nudo qualcosa che poi... Io facevo il mio mestiere, Demetrio, le piaccia o no? Facevo allora il mio mestiere, lei capito? Fa il suo mestiere quando fa intervenire la Santanchè in diretta. Certo che faccio il mio mestiere, ha voglia, come lo se non lo faccio. Chiede alla Santanchè, una che ha fatto il dito medio a folle oceaniche di bambini, e chiede a lei che cosa ne pensa, se è una cosa volgare o meno. Si qualifica da sola, se lei parla di volgarità o no e dice la volgarità è tutta dall'altra parte, lo dice e si qualifica da sola, ha capito? Qual è la tecnica? Se non l'ha capito... Assolutamente, la sua tecnica se non l'ha capito, è pazienza, perfetta. Pazienza. Duilio da Cagliari, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera. Dica. Anche a Parenzo. Io avevo chiamato alle 6:30 perché avrei voluto parlare col sindaco di Firenze. Cosa voleva dire al sindaco di Firenze? Nonostante io sia un elettore di centrodestra, stravedo per Renzi. Ma molti elettori di centrodestra stravedono per Renzi, come mai? Perché secondo me se riuscisse ad avere un seguito vero, sarebbe sicuramente da votare. Chi, Renzi? Renzi, assolutamente. Beh, ho capito, Duilio. Sindaco. No, da votare come magari presidente del Consiglio, intendo quel senso lì. Lo so, ma dice che per adesso nel centro-sinistra non si vuole, non credo che si candiderà con il centro-destra, non vuole candidarsi alle primarie. Allora, lo ha giurato. Io lo voterei anche al centro-sinistra, se fosse Renzi e se facesse. Guardi, probabilmente pure io mi verrebbe questa tentazione anche a me, però devo dire la verità, in questo momento, con questo quadro politico, con queste alleanze che si vanno configurando, mi sembra improbabile. Il mio dispiacere è quello. Ha fatto fuori Chiapparino. Un'altra persona che mi ha fatto fuori, ha finito di fare il sindaco di Torino, non è che l'hanno fatto fuori. Ha finito sì di fare il sindaco, però vediamo se riuscirà a fare qualcosa, diciamo così, di importante. Anche un altro che mi è particolarmente simpatico, sempre del centro-sinistra, è l'ex sindaco di Venezia. Sì, Cacciari. Cacciari, che abbiamo in collegamento qui, mi sembra, no? Sì, pronto. Sì. Pronto, buonasera. Pronto. Sì, no, adesso cade la linea. Cacciari? Pronto. Cacciari? Pronto. Dove si trova Cacciari, sindaco? Ma che pronuncia il mio nome? Chi è che pronuncia il mio nome in vano? Chi è che lo pronuncia in vano? È un ascoltatore da Cagliari, Duilio. Buonasera, Cagliari. Cagliari, perché? Non conosce la città di Cagliari? Sono andato mille volte in Sardegna, ma mille volte, le pare che non conosca Cagliari. No, ma sicuramente lo conosce Cagliari, siccome si stupiva. Si stupiva. Va bene, siccome era stato nominato, tra virgolette, da quell'ascoltatore, volevo fare un collegamento rapido. Mi scusi se l'ho disturbato. Se... Dice sempre, mi scusi, mi telefona, mi rompe i coglioni, ero qui in laguna, lavorare. Va bene. Ma mi scusi. Adesso non si sente più niente. Duilio, concluda. Niente, poi per finire sono rimasto abbastanza esterrefatto a sentire l'ultima telefonata che ha fatto con l'ultimo radioascoltatore per il discorso della canzone, perché io sinceramente sono assolutamente d'accordo con lei che per per qualunque persona venga fatta nella faccia della terra una cosa del genere, utilizzando i bambini, è una cosa assurda. Io mio figlio non gliel'avrei mai fatto fare. Ah beh, meno male. Lui. Ma cioè, scusami, quella canzone nasce come fatto privato, lo vuoi capire o no? Ma certo che è un fatto privato, poi diventa pubblico, la mette lui su YouTube, ma quale privato? Ma di che stai parlando? Lo mette su Facebook e poi viene automaticamente, quindi nasce come una chicchina privata. No, ma che privata? Se uno la vuole, ma certo che non è del PD. Chi ha detto che è del PD? Ma non c'entra niente. Non ho mai pronunciato la parola Partito Democratico. No, perché sembra che sia, come dire, il classico, detta così, sembra fanatismo di sinistra. No, se hai capito benissimo, guardi, Cruciani, in questi giorni che ho avuto modo di seguire un po' questa storia sulla Zanzara, secondo me tutto quello che gli viene attribuito non l'ha mai detto, non ha mai cercato né la sinistra né il Partito Democratico né. Ma io non ho mai pronunciato né sinistra né Partito Democratico. Giustamente è un'assurdità che a dei bambini vengano messi lì con un testo davanti a insultare chi che sia, che probabilmente non sanno neanche chi stavano insultando. Bene, grazie, grazie Duilio. Giovanni da Bologna, buonasera. Ciao Cruciani, sono Favia, 5 Stelle. Favia, che succede? Buonasera. Ah, ciao, ascoltami, ho sentito quello sciocchino di Renzi citare quando Beppe Grillo faceva gli spot agli yogurt 30 anni fa. Sì. Come se io ricordassi a Renzi che andava con Mike Bongiorno a giocare alla ruota della fortuna, mi sembrano cose lecite, non illegali, non capisco che critica politica è a Grillo dire che faceva 30 anni fa la pubblicità per lo yogurt, no? Non sei d'accordo con me? Ma guarda, è un discorso generale, poi se entriamo nel dettaglio di quella frase si può anche contestare, non è quello, è che, come era evidente dall'intervento di Renzi, a Renzi non piace il linguaggio e anche alcune contraddizioni che ci sono nella storia di Grillo. Insomma, adesso sarà pur possibile criticare Beppe Grillo, no? Giovanni? No, sì, ma mi sembra sciocco criticarlo perché faceva 30 anni fa da uomo di spettacolo la pubblicità dello yogurt. Qui ci sono delle proposte politiche. No, rispetto che... alle cose che ci dice adesso sul commercio, sui trasporti, eccetera, eccetera. Comunque, certamente quella può essere stato da parte di Renzi un passaggio non particolarmente riuscito nella sua critica su Grillo. Ma la cosa principale è questa cosa su Pisapippa. Questo mi sembra evidente, no? Beh, ma certo, ma... Ecco, voglio sapere da lei, però... Ha sbagliato o no? Grillo? A chiamarlo Pisapippa. Ma scusami, io ovviamente ho una funzione diversa, non avrei mai usato quei termini. Lui sicuramente può permettersi di usare queste parole, e se Beppe Grillo lo conosciamo così da 30 anni, poi può piacere. Ho capito, ma lei non esiste senza Beppe Grillo, abbia pazienza, signor. È come Berlusconi con molti del PDL, cioè non esisterebbero senza Berlusconi per la forza elettorale di Berlusconi, eccetera. Voi senza Grillo. Ma certo, non... Grillo, ho capito, è il nostro cannone mediatico. Ecco, se il vostro leader dice che quello quello che ha vinto a Milano si chiama Pisapippa e non Pisapia, lei può essere in grado, siccome è autonomo intellettualmente, di dire che Grillo ha sbagliato. Scusami Cruciani, Grillo, perché c'è sempre questo equivoco, si candida per qualche ruolo istituzionale? Vabbè, ma non, no, questa è una pantomima. No, rispondimi, si candida o no? Lui è fuori dalle istituzioni. Ma cosa c'entra? Perché permettersi di tenere il suo linguaggio? Vabbè, allora, insomma, scusi Fabia, anche Di Liberto è fuori dalle istituzioni eppure guida un movimento, no? Un partito, è uguale. Quindi che c'entra Di Liberto? No, ma comunque, Giovanni, perché non avete il coraggio di criticare questa roba qui, che è una roba indecente quella che ha detto su Pisapippa, indecente. Sono convinto che gli elettori dei 5 Stelle a Milano hanno votato in gran parte, credo, Pisapia. E non hanno piacere al fatto che il loro leader due giorni dopo se ne esca dicendo Pisapippa, ha capito? Voi però, sì, che siete, lei è in Consiglio regionale, addirittura in Consiglio regionale, o sbaglio? Ma assolutamente sì. È in Consiglio regionale in Emilia Romagna, non ha il coraggio di dire che Grillo ha sbagliato e non dovrebbe più chiamare il neo sindaco di Milano Pisapippa. Ma capisci che è un dibattito sul nulla, che esiste la politica, vabbè, è sul esiste nulla. Il governo del territorio, esiste un... Ma certo, ma che c'entra? Allora, certo che c'è il governo del territorio. Vabbè, e allora non parliamo delle battute di Beppe Grillo, parla sempre di quello che volete voi. Io parlo di questo. Abbia pazienza. Ti faccio una domanda concreta, visto che si parla di crisi, di tagli. Allora, io sono alla festa del Fatto Quotidiano. Ma scusa, a me che cosa me ne importa che tu sia alla festa del Fatto Quotidiano? Ti faccio una domanda. la tua radio e il giornale che la controlla prendono milioni di euro di finanziamenti pubblici. Adesso, perché io critico Beppe Grillo, perché critico Beppe Grillo, mi devi parlare dei finanziamenti pubblici del giornale del Sole 24 Ore. Guarda, ma sei d'accordo o no? Ma che d'accordo? Pubblici? Ma quali finanziamenti pubblici? Non dire stupidaggini, su, dai, che sono cose che hanno tutti gli altri, che hanno tutti gli altri giornali, su, dai. Non sono finanziamenti pubblici a giornali di partito. Non mettere insieme cose che non esistono. E cosa sono? Il giornale del libero mercato? Sono agevolazioni fiscali, sono agevolazioni su quello, eccetera, che negli anni sono stati anche ridotti. Se vogliamo ne parliamo fino all'infinito, se è giusto o non è giusto, ma non dire che sono finanziamenti pubblici come quelli che prendono altri giornali. Ma non sono privati, sono pubblici, c'è poco da dire. L'italiano ma comunque adesso questo non c'entra niente. Ma perché stai mettendo in mezzo questa cosa? No, spiegami. No, perché secondo me hai capito. Ma ho capito, questa è un'operazione di benaltrismo che non c'entra nulla rispetto alla frase, alla frase di Grillo. Un attimo solo però. Parenzo se n'è andato? Parenzo se n'è andato per il momento. Maurizio Gasparri, buonasera. Buonasera. Eccoci, buonasera. Eccoci, come va? Ma chi è Grillo, quello dell'omicidio per cui è stato condannato? E che, come è stato condannato per un omicidio? Ah sì, c'è una vecchia storia, ma non è stato condannato. Non è una vecchia storia, un omicidio colposo. Grillo che fa lezioni di morale alla gente, guidando in modo spericolato molti anni fa, causò la morte di altri passeggeri andando su una strada dove non si poteva circolare, credo con una specie di jeep, un SUV, perché lui è ambientalista, salvo usare barche su, e morirono delle persone. Ah sì, ricordo, la sua imperizia, è stato condannato per omicidio colposo. Favia, è vero questo? Che fa la morale alla gente, che si porta la responsabilità di morti. Una persona come Gasparri tiri fuori una tragedia personale, che è vero o no? È vero o no? È vero o no? Ma certo che aveva scritto il suo sopra, ma tu vai prendere una tragedia personale di una persona che in un incidente in macchina perde gli amici e i familiari perché va su una strada dove non si poteva circolare di lui. Perché va su una strada, perché ma bisogna vergognare le persone, gli italiani non lo sanno questo, credono che Grillo è uno che fa l'omicidio allo yogurt. Grillo è uno ridicolo. Che guidando in modo spericolato causò la morte dei suoi amici e per questo è stato condannato. Scusi, bisogna dire la storia vera agli italiani, vede che vero, Cruciani, e nessuno lo sa. Allora, Favia, no, io sì, me lo ricordavo adesso. Favia, che vuole dire su questa cosa? Che il fatto che ogni persona dovrebbe essere rispettata per le tragedie personali, private, che non riguardano la sfera pubblica. Sì, certo. Beh, certo, Grillo se la prende con tutti, però. No, quando uno se la prende con tutti, poi fai i conti con la sua storia. Se la prende per comportamenti pubblici. Che cosa c'entra la tragedia privata? Ma che livelli siete? Fate delle critiche politiche. Ma siete ridicoli. Non avete argomenti. Un attimo. Dove non si può circolare con il SUV e causa la morte degli amici, non può parlare di ambiente e di tutela delle persone, perché la sua condotta di vita non è credibile. In altri casi le vite private vengono origliate, scandagliate, intercettate. Qui invece si dice una cosa privata. La gente non lo sa. Grillo ha fatto Gasparri, per la sua irresponsabilità ed è stato condannato, diciamolo. Fa via. Infatti Beppe Grillo non si candida, a me piacerebbe che Gasparri si confrontasse con noi su un nuovo modo di fare politica e su un nuovo futuro per questo paese. Vabbè, questo non c'entra nulla adesso. Dobbiamo parlare di Beppe Grillo. Intanto stiamo parlando di uno che ha fatto morire gli amici, nessuno lo sa in Italia. Quindi almeno parliamo di queste cose, no? Quindi... Poi le persone che giudicano dei loro comportamenti, no? Io potrei raccontare tanti bei programmi, ma conta poi anche quello che viene alla vita reale. Cioè, Gasparri vuole dire, Favia, che se Grillo parla, e parla sicuramente della vita privata degli altri, perché parla sicuramente della vita privata di Berlusconi e di altri, la Carfagna e quello, eccetera, possiamo andare a ripescare, allora perché non parlare pure della vita privata di Grillo? Risponda su questo e poi chiudiamo. Gasparri. Ma infatti i personaggi squallidi come Gasparri lo fanno. Ah, Parenzo ha risorto. Parenzo, che dici tu? Chi ha ragione? Dico che ha ragione Gasparri su tutta la linea, mi dispiace doverlo ammettere, magari Gasparri non sarà contento che sono d'accordo con lui. Perché non dovrebbe essere contento? Mi fa piacere che lei sia d'accordo. Perché dovrebbe essere scontento? Io sto dicendo un fatto. Che dici, Parenzo? Una cosa che è venuto qui, che fa il comico e il leader di partito, prendersi, deve scendere nelle regole comuni della politica, cioè se lui rompe i coglioni agli altri, che gli altri possono rompere i coglioni a lui. Favia, chiudiamo questa parte con la sua replica. Favia. Beppe Grillo, è un uomo libero, non si candida nelle istituzioni, si è giocato la sua carriera, ci ha rimesso anche dei soldi per far nascere un nuovo movimento popolare. Ora, per questo lo sappiamo. A tutti i contro, anche i personaggi squalidi come Gaspari che vanno a tirare fuori i suoi incidenti privati. Oh, Gaspari può farlo, ma la sua critica politica è nulla al Movimento 5 Stelle. Comunque, io farò il grillo di Grillo. Grillo è stato condannato perché per il suo comportamento irresponsabile, guidando un'automobile su una strada dove non si poteva circolare, ha causato la morte dei suoi compagni di viaggio ed è stato condannato. E come lui parla di tutto e di tutti, parliamo di Grillo. Vede che lei sta in difficoltà perché non sapete che c'è di Grillo, che è passato dall'omicidio colposo allo yogurt a fare la morale al mondo. Allora parliamo di fare Grillo, il suo contenuto politico, Gaspari, non riesce a arrivare a allora, Favia, grazie. Grazie di essere stato con noi. Fra poco torniamo in onda anche con Maurizio Gasparri, di cui parleremo invece di una cosa che è successa qualche giorno fa qui su Radio 24. E di altro, Parenzo, sei sul treno? Sempre sul treno, verso Bologna, verso la rossa Bologna. Una cosa tremenda. Non funzionano le linee telefoniche lì, è una cosa incredibile. Adesso quasi è arrivato a Bologna, va tutto magnificamente, viva l'ingegner Moretti. No, veramente non va tutto magnificamente, che prima la linea si stava interrompendo. Comunque abbiamo ancora un minuto e mezzo in realtà. Allora, cosa risponde subito all'onorevole Biancofiore che qualche giorno fa qui gliel'ha detto di tutti i colori, signor Gasparri? Ma guardi, io credo che noi dobbiamo occuparci adesso del futuro del popolo della libertà, che è una cosa seria. Per quanto riguarda queste polemiche, credo che chi usa toni sguaiati sbagli, non è che rispondo granché. Le dico un fatto, nel 2008, le viste non le facevo io, Silvio Berlusconi decise di candidare in Campania e non in Alto Adige questo parlamentare perché creava dei problemi nella politica locale. Che problemi? Locali, nei rapporti tra i partiti, cioè un po' Mattarella? No, io faccio un discorso politico, mica faccio il medico, io dico cose oggettive. Come ho detto che Grillo, e nessuno lo sa, è stato responsabile della morte guidando l'automobile con i suoi amici, ha visto come si sono arrabbiati i grillini, perché non lo sanno. Vabbè, gli incidenti loro. Però l'incidente succede, no? L'incidente... Se lei sale sulla macchina, vado su una strada dove è vietato andare e causa la... Vabbè, ma ha pagato, la sua ha pagato per quello che ha fatto. Non è una persona responsabile, no? Quindi questo, comunque, ricordiamo questi fatti. Per quanto riguarda l'altra vicenda, credo che noi dobbiamo favorire il radicamento, il consolidamento e il dialogo anche con altre forze politiche. Ho capito, ma lei ha detto che lei è un violento, un arrogante, un... No, non è vero, quindi sono affermazioni ridicole e se poi superano un certo limite, credo che poi uno poi passi dalla... sopportazione paziente alla querela, se poi ci sono estremi di... Ha detto anche che lei ha parlato di una sua relazione con il ministro Frattini, ma ne parliamo fra un istante dopo la pubblicità. 800 24 00 24. Eccoci, 20 in punto, 800 24 00 24. Ma insomma, tra di voi però, signor Gasparri, un po' per chiudere questa vicenda con la Biancofiore, qualcosa deve essere successo, perché una persona che dice: guardi, mi ha accusato di prendere psicofarmaci, mi ha accusato di avere una relazione con Frattini, questo ha detto da noi. Questo non è assolutamente vero, io mi occupo di politica e non di polemiche. In Alto Adige il centrodestra sta cercando di confrontarsi con il partito di raccolta dei voti, del consenso. Vabbè, della popolazione di lingua tedesca, la struttura del Volkspartei. Siccome ci sono alcuni settori del PDL che questo dialogo lo portano avanti positivamente ed altri meno, c'è un problema di natura politica, tant'è vero che l'onorevole Biancofiore fu da Berlusconi, come dire, delocalizzata dalla campagna con la candidatura, essendoci queste liste bloccate per cui uno può candidarsi comunque, perché rendeva difficile questo rapporto. Quando sono state prese delle sull'atteggiamento del PDL sono state condivise dal presidente Berlusconi, insieme al quale sono state prese, insieme ai coordinatori, insieme a tutti i vertici del partito, c'era anche Alfano che non era ancora segretario ma era presente, e quindi noi ci occupiamo di costruire il futuro del centrodestra. Devono, come dire, è già uscita dal gruppo secondo lei? Ma non lo so, ma credo che insomma, se uno poi si dice fedelissimo a Berlusconi, che fa, esce fuori dal gruppo di un partito che quando si presenta alle elezioni c'è il nome di Berlusconi scritto sul simbolo, mi sembra un pare voglia andare con Scajola, anche se poi Scajola fino adesso non è che sia uscito. No, lo so, le lo leggo so. L'ultima dichiarazione sul nucleare, lo so, al TG3, sì, sul nucleare, parlo in generale su qualsiasi argomento. Scajola è un esponente del popolo della libertà e quindi sono la con Scajola sarà in PDL. Però ripeto, noi ci dobbiamo occupare della costruzione del futuro e del dialogo anche con tante forze vestazioni, politiche, ingiurie, servizie personali. Ma... No, io credo che ci sia un modo strano di sragionare per uscire dall'anonimato. Io lei non ha mai detto, non ha mai detto, per esempio, che la signora Biancofiore aveva una relazione con il ministro Frattini? Ma ti figuri, insomma, io stima e simpatia per il ministro Frattini, che si occupa di cose serie. È stato a Bengasi l'altro giorno a occuparsi dei problemi del Nord Africa. Vabbè, sì, le battute si possono sempre fare, per carità. No, no, ma quindi guardi, non è proprio così, e credo che si sopravvaluti una certa polemica quando bisogna occuparsi di cose serie, quali quelli che noi stiamo facendo perché il PDL abbia un futuro positivo in un momento di difficoltà per risultati. Parenzo, sei tornato? Sono tornatissimo e sto ascoltando con interesse. Allora, però, Gaspari, vogliamo chiedere una cosa. PDL, che no, allora, un tema sì, sì, un assolutamente. Se, io se... voglio chiedere anch'io sul PDL al senatore Gaspari, perché sì, lui chiedi. Viene da un partito che ha una lunga tradizione di partito, con le sue liturgie, congressi, eccetera. Qui questo PDL è un comitato elettorale di Berlusconi, non ci sta un po' stretto? No, io ci sto bene, perché credo che sia un modo per razionalizzare il quadro politico. Io sono contrario alla frammentazione in tanti partiti e micropartiti. Sono favorevole alla creazione di grandi partiti e sono favorevole al bipolarismo. Il bipolarismo non vuol dire che in Italia ci saranno... Sì, il partito è una roba diversa, lei l'ha vissuto, l'ha costruito, quello lì è un comitato. Vabbè, quello però è da sempre così, insomma, non è... Mi fa finire, le rispondo. È un partito che è stato costruito recentemente, che deve... Sul Predellino? È nato sul Predellino quel partito? Non è nato sul Predellino, Parenzo. Come no? Il partito... se io posso parlare... Io... No, no, prego, lei, quando mi date qualche secondo per fare venire la mia risposta, quando lei ha finito parlo io. No, no, ma era solo per interloquire, figuriamoci. Allora, il PDL è stato... presentato alle elezioni come lista nel 2008 e molti milioni di italiani ne hanno decretato la vittoria alle elezioni, e credo che più del voto dei cittadini di come dire, consacrazione democratica per la nascita di un partito non ci sia. Contano più i voti veri nelle urne che le chiacchierate che ci possiamo fare. Questo non c'è radio. Dubbio. Poi il partito è stato costituito dopo quelle elezioni nel 2009 con un congresso, ha vinto in molte regioni, ha vinto in tante città. Prima che nascesse il PDL il centrodestra governava 30 province, ora ne amministra 60, governava 4 regioni, ne governa 11. Ora si tratta di consolidare con modalità più anche tradizionali, perché su questo le do ragione, è necessario poi rispettare lo statuto, eleggere democraticamente classi dirigenti, ma noi al congresso abbiamo eletto Berlusconi leader di questo partito. Lei pensa che non sia stato designato, oltre che dal congresso, prima ancora da molti elettori? Siccome poi il PDL dovrà, come il gollismo, sopravvivere al suo leader nel futuro, dovrà sempre di più darsi una strutturazione democratica, perché Berlusconi ha avuto anche un consenso elettorale di milioni di italiani. I prossimi leader che ci saranno nei prossimi anni e decenni, a meno che non emerga un nuovo leader di tale importanza, quando nascerà, avranno bisogno di un partito più strutturato. Ci saranno dei leader, ma come è successo, io immagino. Senta, però, quello che è successo al gollismo. Dopo De Gaulle ha avuto vari leader e ha vinto e ha perso, ma c'è ancora. Senta un attimo, l'altro giorno qui Feltri ci ha detto che la nomina di Alfano la considera, e su questo sono d'accordo con Feltri, una pecetta. Cioè ha detto che lo considera una cosa non particolarmente, non un colpo di frusta, insomma una grande novità. È d'accordo lei? No, io la considero una grande novità, perché il messaggio che vedo in questa scelta, che ho contribuito a far prendere, che ho sostenuto con convinzione. Sono rimasti 3 coordinatori, Gaspari, che fa? Alfano più 3 coordinatori. Sì, ma io me ne sono occupato personalmente insieme ad altri. Ma lo so, c'è appunto. Il presidente Berlusconi, c'è un segretario che avrà i poteri di un segretario, e sotto questo segretario dei responsabili per aree tematiche, uno che si occupa dell'organizzazione, uno dell'iniziativa esterna, un altro del programma, come succede in tutti i partiti tradizionali. Il segretario che cosa rappresenta? Un messaggio verso il futuro. Alfano ha 40 anni, la sua designazione, che dovrà essere poi democraticamente ancora di più sostenuta e articolata, vuol dire che il PDL non è legato solo a questa straordinaria esperienza di Berlusconi, ma ci sarà anche dopo. Questo è il messaggio di prospettiva e di positività che un leader quarantenne deve rappresentare per il centrodestra. Poi se Angelino sul campo si dimostrerà capace e bravo e si rafforzerà, e come tutti noi è chiamato a dimostrare nella prova dei fatti la sua capacità, io credo che sia all'altezza del compito molto delicato che gli è stato affidato di dare questa prospettiva di futuro e di continuità del PD. Parenzo, ci sei? Ma certo che ci sono. Allora, no, ti voglio chiedere una cosa. Perché c'è, è riscoppiato di nuovo il caso Santoro, caro Gasparri. Qualcuno pensa di nuovo a introdurre la... 20 anni che c'è il caso sì, Santoro. Appunto, no, è riscoppiato di nuovo in queste ore dopo la trasmissione di Celentano, eccetera. La questione dell'alternanza dei talk show, le sembra ragionevole? Qualcuno lo può averla, può pensare vorrei di riproporla? Vorrei capire perché Santoro può violare le regole. La Gcom ha censurato Santoro e alcune puntate recenti di Anno Zero. Anni fa aveva condannato la Rai per i programmi di Santoro, invece se Minzolini fa un'intervista al Presidente del Consiglio scattano le multe. Io credo che Santoro goda di una forte impunità, ma non sono tra quelli che si ostina nel fargli pubblicità attaccandolo ossessivamente. È un militante politico della sinistra che gode di spazi della televisione pubblica, che usa in maniera unilaterale e faziosa, ma è un dato di fatto. Ma l'alternanza dei programmi no, l'alternanza dei programmi non si deve fare. Ci voglia la pluralità delle voci, e nella televisione la sinistra che si lamenta ha una netta prevalenza nei talk show. Quindi io sono per la aggiunta, per la moltiplicazione degli spazi, per il pluralismo delle voci. Dunque niente alternanza, non è l'alternanza, di avere più trasmissioni. Beh, se ci sono dei giornalisti. Ma una che il centrodestra ha proposto, però si è rivelato un flop. Sgarbi con l'8% la prima serata è cancellato. Io avevo previsto questo flop, l'avevo detto a chiunque. Ritengo che Vult e Sgarbi non avevano i numeri per fare un programma. E chi ha fatto l'errore? Chi è stato l'errore? Di Berlusconi che si è impuntato? Di Masi? Chi l'ha messo in onda? Di Mazza, allora? Di Mazza? No, Mazza, poveretto. L'ha subito. Che lo ha messo in onda, perché era un programma che non avrebbe avuto un successo, perché si capiva già. Ma chi l'ha voluto? Berlusconi? Ma chi l'ha voluto? Forte? La Rai. Ma ho capito, adesso la Rai ha un nome e cognome, Gasparri, non giriamo intorno. Il direttore generale era Masi, ha difeso questo progetto. L'ha voluto Berlusconi, ma anche. La volta è di Sgarbi che doveva saper pesare le capacità, sue, diciamo, possibilità di fare un programma forse troppo raffinato per avere un ascolto elevato in prima serata. Comunque Santoro resta anche l'anno prossimo, sicuro, sì, sta lì. Santoro. Santoro, sì, sì. Ma credo che Santoro sia proprietario a vita di spazi della televisione pubblica per un privilegio politico che gli tocca. Poi, e dunque l'anno prossimo sarà a modo suo, in maniera faziosa, ma io ripeto, non ho questa ossessione, quindi francamente mi sto occupando questi giorni del mio partito e del suo futuro. Senta, ma la Dandini sul palco di Pisapia, come la vede? Come l'ha vista? Ma no, io non vedo niente, le sta ricordando lei come molti conduttori siano dei militanti politici. Io, per esempio, cioè l'altro giorno ho visto la Dandini alla festa di Pisapia dire che fossero dei programmi, chiediamogli, conduttori di centrodestra che fossero così carichi di odio e che vedessero i conduttori sui palchi politici, chissà cosa succederebbe. La sinistra Gasparri, dica. Sì, la sinistra goda di una forte impunità riguardo a questo, è privilegiata e si lamenta. Sono degli artisti perché riescono a passare per vittime quando le vittime. Dunque la Dandini sul palco di Pisapia è uno scandalo, insomma. No, lo sta dicendo lei, non lo sapevo neanche, Franca. Non credo che la Dandini sposti i voti a Milano. No, sono, che c'entra spostare politici che non hanno uguali sull'altro versante. Nessuno gode, né sulle televisioni private né su quelle pubbliche, di uno spazio analogo manifestando sentimenti di militanza politica con il centrodestra come queste persone fanno col centrodestra. Cioè, dall'altra parte non sarebbe possibile una persona che va sul palco. Non mi ricordo, non ho grande memoria. Ma no, perché non c'è episodio, scusa, ma che discorso adesso, è? Ma adesso mi sta dicendo, no, che c'è questo episodio. Mi dica conduttori di centrodestra che stavano sui palchi in questa campagna elettorale. No, non ce ne sono, non c'è. Signor Forbice, quando il signor Forbice, che c'entra Forbice di Radio Rai? Te lo dico io cosa c'entra. Quando il signor Forbice ha partecipato a una giusta, buon diritto, nella sua legittimità di cittadino e di giornalista, ha partecipato a una manifestazione del PD a Milano pochi mesi fa, sinceramente non so manco chi sia, non lo so, davvero non lo dico polemicamente. Io lo so perché lei lo dice, lo sta dicendo. E farmi conduttori è una situazione da unità, e non ci sono situazioni uguali e contrarie sull'altro versante. Se ci fosse, ha intervistato dei politici per la festa del PDL. Ma no, se ci fossero, se ci fossero, sì, sì. Uno che taglia, non lo so. Non lo so. Grande, Gaspari è bravo, eh. Gaspari è bravo, bravo. Anch'io non lo conosco in realtà. L'ha citato Parenzo, anch'io non lo conosco in realtà. Io non lo conosco. Scuso con Forbici, è colpa mia se non lo conosco, non è colpa sua. Gaspari, bravo Gaspari. Senta, c'è questa storia del nome del simbolo del partito. A lei viene in mente un nome, un simbolo del partito? Non bisogna cambiarlo, no, va bene PDL. Se dovessimo cambiare nome, a me piacerebbe richiamarci al Partito Popolare Europeo. Cioè? Però non è il Partito Popolare Europeo, chiamare la versione italiana del PPE, quindi trovare PPE un nome Italia, che tipo ci ricolleghi, PPE Italia, ad esempio. Però qual è il problema? Quella sigla non la potremmo usare solo noi, perché non è solo il PDL che aderisce al PPE, esiste anche l'UDC ed altre formazioni minori aderiscono al PPE. Quindi se non c'è questo riferimento europeo, alla fine le parole popolo e libertà mi piacciono. E dunque, non ho idee da suggerire, non mi terrei questo nome. Se si potesse usare un richiamo al Partito Popolare Europeo, mi piacerebbe. Però credo, le ripeto, che siccome a quel partito europeo aderiscono anche altri, ci siano delle difficoltà. Dunque, per il momento teniamo se questo poi nome. Se qualcuno tira fuori un'idea bella, non avrò difficoltà a sposarla. Per me l'idea del popolo e l'idea della libertà mi piacciono come denominazione. David, ti piace di più il nome PDL o AN, ad esempio? Non le fa nostalgia il nome AN? No, guardi, non mi fa nostalgia perché io credo nei progetti politici. Io sono un uomo di destra che ha sposato un progetto di centrodestra e non ho nostalgie, perché la politica è un divenire, è una tensione ideale verso il futuro, quindi non ho rimpianti di passato. Poi se penso agli anni 70 in cui ho cominciato a fare politica, era un'Italia di violenza, di omicidi, di morti, quindi non posso avere sentimenti di rimpianto per il passato, preferisco sempre il presente e spero sempre nel futuro. Il passato, lei è più giovane di me, credo che il passato degli anni 70, che molti ne hanno vissuto, non è una fase in cui vorremmo tornare. Sì, c'era più passione, ma c'era tanta violenza. No, per carità, per carità. Io non sono un fan di quelli che dicono stavo meglio prima di 15-20 anni fa, siamo sempre meglio, sempre meglio adesso. Io non sono mai un laudator temporis acti, così com'è, si dice, com'è che si dice laudator temporis acti, lodatore del tempo passato. Oh, abbiamo scoperto anche... Poi uno è nostalgico, perché tutti siamo nostalgici della gioventù, perché poi gli anni passano. Sì. Tuttavia, io che faccio politica dai 14 anni, ricordo situazioni, io poi stavo in una scuola molto di sinistra, di odio, di compressione dei diritti, che non rimpiango affatto. Allora, intervista a TG3 di Scaiola per concludere, che dice il nucleare è necessario, non vado a votare. E io devo dire che tanto di cappello a qualcuno che esce fuori dicendo quello che pensa di fronte a tante persone che adesso dicono no, beh, qua su giù prima ero favorevole, adesso no. E cioè, lei va a votare, Gaspari, il referendum? Noi abbiamo lasciato. No, quello lo so, voi, lei, che fa però? Le dico che si può andare a votare, sì o no, o non andare a votare. Io nell'ambito di queste scelte, tutte e tre rispettabili, personalmente non andrò a votare. Gaspari non va a votare, per nessuno del referendum naturalmente. Però noi diamo un'indicazione che chi vuole votarsi, per esempio il referendum sulle aziende pubbliche municipalizzate, sì, che non è solo sull'acqua, è sulla trasformazione dei servizi pubblici locali, io la penso come la pensava Bersani nel 2008. Esatto. Sono favorevole alla legge che abbiamo fatto e quindi Bersani, se fosse coerente, dovrebbe o non votare o votare no. Io ritengo che l'acqua resta pubblica, ma aprire ai privati il servizio per evitare sprechi è una cosa saggia. Io quella legge l'ho votata, quindi io per anche per queste ragioni complessive non vado a votare. Le norme sul nucleare sono state già abrogate in Parlamento, perché sappiamo che oggi è anche legittimo l'impedimento, è stato un po' sterilizzato. È stato svuotato dalla sentenza della anche Corte. Se poi naturalmente tutte queste cose hanno una valenza politica. La devo salutare. Grazie a Maurizio Gasparri. Ti ricordi che Grillo ha fatto morire i suoi amici? Vabbè, adesso lui ha fatto morire, i suoi amici. È un incidente che può capitare nella vita di ognuno di noi. A lui è capitato ed è stato condannato. A lei è capitato. Ma no, ma che perché c'entra? Come no, ho capito, ma sapeva che poteva evitare quella. Però non è che può essere un marchio vita su Grillo, non è che quando uno parla di Grillo. È un mondo in cui ciascuno deve sapere che chi fa le pulci al prossimo, si può aspettare che si può aspettare grillato. Chi fa il grillino sarà grillato. grazie, non è male, non è male. Che casino questa sera, 800 24 00 24. Parenzo, ci sei? Certo che ci sono, ma alla fine ci sono stato quasi sempre, no? No, è per accertarmi della tua presenza. Dove sei? A che punto sei? Tra Bologna e Padova, no, ormai? ormai siamo oltre Bologna, in zona di sicurezza. Zona di sicurezza, questa è la Zanzara. Serata un po' particolare in cui dapprima il sindaco di Firenze, poi Maurizio Gasparri hanno messo un po' di pepe, come dire, no? Serata meravigliosa, grandi ospiti come sempre, la trasmissione ti premia, quindi complimenti da tutti, anche qui sul treno, salute date Cruciani, eccetera. Ma chi del treno? È una bella trasmissione, lo dicono un po' tutti. Ah, sul treno, anche, sul treno. Anche il controllore che è passato prima dice, quella, lo dica Cruciani, è la trasmissione numero uno. Ah, così io ha detto? Dico, glielo dirò, senz'altro. Così ha detto il signor controllore, il vero controllore. Appena lo ribecco, il vero controllore, naturalmente. Il vero, ecco qua sta passando la signorina con le cose da bere, adesso anche lei magari dice che lo ascolta quando torna a casa in genere, sì, e dice no che è un'ottima trasmissione, ottima. Ma adesso, lo stai dicendo da solo, lo stai dicendo da solo, non l'hai non l'hai chiesto alla signorina che passa, chiedo, ma quindi, non, magari non conosce la trasmissione, giustamente è un'ottima trasmissione della Zanzara di Cruciani. È ottima, è tutto vero, è tutto vero, ascolta se messo a distribuire, come glielo dica, sì, è ottima la grazie. Beh, ma l'hai istruita apposta, ma non che, è... ma chi istruisce? È gente, queste persone che lavorano su, sono persone molto per bene, peraltro, quindi persone brave, persone dice, no? brave persone. andiamo avanti, che succede? Sei irritato anche per la Dandini sul palco, il signor Gasparri, Ma vabbè, cosa ha detto sul palco di Pisapia? Sentiamo, Scusate, la Roma ci deve essere ancora di nero, ha dovuto prendere i vestiori. Poi ha detto altro, naturalmente, non ha detto solo questo. Giancarlo da Milano, 800 24 0024, dica. Pronto? Dica Giancarlo, dica. Grande Parenzo. Che ha fatto Parenzo? Pirla, Parenzo, è un pirla. Un pirla, va bene, iniziamo bene Giancarlo. Abbassi la radio innanzitutto, chiuda, spenga tutto. È un signore, un ascoltatore che è intervenuto dandoti subito del pirla. Ah, vabbè. Beh, se lo merita per quello che pensi, per quei bambini lì, di cosa è un pirla, c'è da dire. È un pirla, va bene, per quello. Quello dice pirlo. Ma d'altra parte pirla non è un'offesa, lo disse anche Mourinho in quel famoso. Ha detto alla milanese, perché secondo lei dovrebbe pensare che queste cose, che la vicenda dei video eccetera, è uno scandalo da condannare eccetera eccetera, però la pensa così, che bisogna fare? Beh, viva la libertà. No, Massimo, è vero, infatti viva la libertà, e viva anche che Vendola, anche lui, cioè a me non è piaciuto. Che c'entra lui... Vendola adesso, scusi? Era questo che volevo anche dire. Che voleva dire? Se la metta ordine nella sua testa prima di intervenire al telefono, magari, no? Giancarlo, lei, Vendola, cosa ha detto Vendola? Ecco, Vendola a Milano ha detto così, ha detto di colori sulla Moratti, di quello che c'era. Vabbè, prima. Ma Vendola è andato lì, ne abbiamo già parlato, ha avuto anche uno screzio con Pisapia, poi ricomposto, si è voluto un po' appropriare della vittoria elettorale. Vabbè, Giancarlo, però faccia un intervento compiuto che abbia senso, altrimenti voglio pensare che lui c'è la sua Puglia in debito, non so quanti milioni ha in rosso, e viene, noi in Lombardia, qui a Milano, siamo a posto coi conti, viene meno il torrone qua. Vabbè. Ecco, prima di venire in Piazza del Duomo soprattutto. Vabbè, ho capito Giancarlo, non mi faccia il tifoso, adesso non è che abbiamo bisogno per forza di gente. Uno è libero di spostarsi, poi uno politicamente può dire che era inopportuno che facesse quel comizio a Piazza del Duomo, sì, però insomma, questo lo posso pensare io, lo può pensare lei. Va bene. Giancarlo, va bene, d'accordo, non è che ci facciamo molto con questo suo intervento, Giancarlo, se continua a dire che Parenzo è un pirla, cioè una cosa resta così appesa, cioè, ne prendiamo atto, lo certifichiamo, secondo il signor Giancarlo da Milano, che ha telefonato e non aveva granché da dire, Parenzo è un pirla, benissimo, archiviamo, andiamo avanti. Parenzo non si offende, Umberto da Modena, no, ma io non mi offendo di nulla, neanche di quel, no, vabbè, ma d'altra parte, Italia, figuriamoci. No, figuriamoci. Saia, hai nominato Saia, lo scontro Parenzo Saia diventato una sorta di cult dappertutto. Umberto da Modena. Pronto? Dica. Sì, buonasera, è un intervento veloce, poi tornerò a fare l'ascoltatore silenzioso. Saluto Parenzo e direttorissimo. Allora, volevo intervenire su questa famosa canzoncina dei bambini. Dunque, io non sono per nessuna strumentalizzazione dei bambini, però c'è modo e modo, cioè una pubblicità non è certo una canzoncina che i bambini cantano, ma non sanno neanche quello che stanno dicendo, questa è la prima cosa. La seconda cosa, non sarà di Parenzo se lo attaccano personalmente, l'altra sera quando urlava non si capiva niente, e quindi no, ho fatto fatica a seguire. Ma quale? Lo scontro con Zaia? Qualche sera fa l'hanno attaccato su una vicenda personale, mi pare, del giornale. Grazie. E lui ha cominciato a urlare: Parenzo, lei il co-conduttore, tenga alta la bandiera con lo stile. Terza cosa... agli ordini, va bene. Pronto? Sì, sì, agli ha detto ordini. Agli ordini. Ah, beh, sì, no, vabbè. Dicevo, terza cosa... e ultima, poi chiudo. Sì. Non capisco tutta questa presa di posizione di certi che intervengono sul fatto che fate un programma di parte, al di là che non è così di parte, ma cosa c'è di male? Ma poi quale parte sarebbe? Ma quale parte sarebbe soprattutto? Appunto, cioè, io penso che voi cerchiate di far intervenire tutti, poi ognuno ha le sue idee, e anzi, chi non è di parte, secondo me, non ha idee molto chiare, e ci sono tante trasmissioni che sono molto più di parte della vostra. Con questo, vabbè. Io bene, Umberto, grazie. Non giudico, ha capito? No, ho capito, benissimo, grazie. Marco da Reggio Emilia, buonasera. Buonasera. Dica. Niente, io purtroppo devo intervenire ancora su questa canzoncina, mi dispiace, ma io credo che lei, amplificando sistematicamente, insomma, tutta la settimana che la fa sentire. Ma io faccio questo mestiere, Marco, non è che io devo sopire le polemiche, le devo tenere su le polemiche, ascolti, abbia pazienza, Marco. Mi ascolti un minuto. No, ma io l'ascolto volentieri, però non mi faccia lezioni su quello che devo tenere su e quello che devo tenere giù. Io penso che lei debba avere anche un equilibrio. Ma quale equilibrio? Io devo tenere su le polemiche, abbia pazienza, Marco. Se non lo capisce, pazienza. Certo, non è che faccio un moderatore, non è che faccio un vigile urbano. La critica stessa che lei formula. Cioè, se lei dice che questa canzone... Pronto? Sì, sì, la sto ascoltando. No, se lei dice che questa canzone è una porcheria, e sono d'accordo con lei, se ne occupi per un tempo. Non è vero, io la faccio ascoltare per cercare di convincere, anche se, per carità, sono una persona... Ma dopo un certo tempo fa il gioco della... Ma no, io no, a me non mi interessa questo discorso di fare il gioco di... Non c'entra assolutamente nulla fare il gioco di... Io rispetto la sua opinione, secondo lei io faccio il gioco di, ma le assicuro che per me l'intento non è questo, l'intento è quello di una polemica che mi appassiona, perché è una polemica che mi appassiona evidentemente, potrà appassionare solo me, ma da quello che vedo e dalla sua telefonata e da altri interventi non appassiona solo me, e dunque mi tengo vivo con questa polemica, Marco. D'accordo, le dico semplicemente che invece a me comincia a dar molto fastidio. E va bene, beh, Marco, cosa vuole che dica? Ma le polemiche, come lei sa, iniziano e a un certo punto finiscono. Certo, lunedì prossimo difficilmente riparleremo di questa canzone, a meno che non ci sia qualcuno che ci speculi sopra, ci intervenga di nuovo, eccetera, eccetera. L'errore è quello di pensare che questa canzone sia un atto politico, invece è un atto idiota. Ma certo che è un atto politico, ma che cosa significa? È un atto di odio politico nei confronti... È l'atto di un signore, anche un po' disperato, che mette insieme i suoi bambini e fa cantare questa canzone. Ha l'ardire di postare questa porcheria, questa divertente porcheria, su Facebook, e nel mondo della rete diventa una cosa globale. Fine della trasmissione. Ma non è un atto politico, no, è la cifra dell'anti-Berlusconismo. Come si fa a dire che è la cifra dell'anti-Berlusconismo? È un signore a cui io non lascerei ti ho mai già detto, figlia, ti ho, nipote. Ti ho già detto che l'utilizzazione dei bambini, contro Berlusconi, allora, in questo caso... Ma indignati con i bambini acrobati del circo. Ancora, insisti con questa cosa. Ma è evidente. Vabbè, per te è così, evidente. Per te è la stessa cosa, per me non ma è la stessa cosa. Far lavorare un bambino nel set di Harry Potter e fargli perdere 8 mesi di scuola, ma è giusto, dire, è umano? No, non dire stupidaggini, sono due cose completamente diverse. Ma perché sono due cose diverse? Perché sono due cose completamente diverse. E se ci ragioni ci arrivi. Ma qual è? Ma certo, ci arrivo perché ritengo volgare quella canzone. No, ma ci arrivi che è una cosa completamente diversa. Un genitore che sceglie, un genitore che sceglie. Il genitore sceglie anche di mandare la propria figlia di 8 certo. anni a fare la sfilata di moda con le mutandine. Sì. E a me non piace. Vabbè, a te non piace, ma è una cosa molto diversa. È una cosa ma molto diversa. Perché in lo dovresti capire diversa? Che è diversa. Se non la capisci, secondo me hai un. Hai un problema anche tu. Ma forse ho un problema anch'io, ma in che cosa è diversa? In che ma cosa? Lo sai benissimo, perché tu alla fine, tua figlia, potresti fare delle scelte che lei non capisce, ma non faresti mai cantare una canzone politica contro Berlusconi o contro Bersani o contro Prodi, hai capito o no? Ma è ovvio che non lo e farei allora, mai, fai tante come scelte, non lo manderei mai a fare una sfilata di moda da bambina. Ma non, t'assicuro no. che... Vabbè, è diverso. No, certo no, che è diverso. Io non vedo la diversità. per esempio, a me è successo, per esempio, a me è successo, a me è successo. La prima cosa che hai detto a me è successa, quella che mia figlia è andata a fare dei provini, non ci trovo niente di particolarmente drammatico. Ma infatti è una scelta della famiglia e va benissimo. Perché i bambini crescono in famiglia. Sì, ma non è la stessa cosa andare a fare un provino per un prodotto e cantare una canzone di odio contro Berlusconi con delle parolacce. Ma ti rendi conto di quello che stai dicendo o no, Borsa? Ma è evidente che non è. E allora se non è la stessa cosa, basta, che su. Che culturalmente non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa, punto, basta. È una cosa completamente diversa. Quella è una porcheria, quella è una scelta discutibile di un genitore, punto. Eccoci, eccoci, 800 24 00 24. Mandatemi qualcosa del professor Ferrarotti. Il professor Ferrarotti voglio. Il nostro idolo, il professore. Professor Ferrarotti, Berlusconi mi commuove. Il professor Franco Ferrarotti questa mattina ad Agorà, ad Andrea Vianello, spettacolare. Lo voglio tutti i giorni alla Zanzara. Professor Ferrarotti. Quest'uomo mi commuove perché si scaglia contro se stesso. E perché questo? Primo, l'effetto di autocancellazione dovuta alla sovraesposizione, perché se uno si fa vedere troppo in televisione viene cancellato, la gente dice rieccolo, è finita, da leader diventa macchietta. Ora il caso di Berlusconi è molto commovente perché è un leader in qualche modo che diventa coppia, brutta coppia, forse macchietta di se stesso. Il Partito Democratico, anzi no, Bersani super ragioniere, meraviglioso, senti. Ma quando allora, mai Bersani con quelle maniche? No, ma Boni, Boni, facciamo una super ragioniere. Non chiudiamo il discorso Alfano. Il Partito Democratico ipnotizzato dal serpente Berlusconi, poi faceva tutti dei gesti, bellissimo, con le mani, senti, con le mani, senti. Avete fatto l'interfaccia del personalismo, siete stati ossessionati da Berlusconi, vi ha ipnotizzati, vi ha ipnotizzati il vecchio serpente, bravissimo. Ipnotizzati il vecchio serpente, vi ha ipnotizzati, bravissimo. E poi anche giunto il vecchio serpente, bravissimo. Isola, Isola, solo la risata, te meravigliosa, la risata. Il carisma del conto in banca. Adesso che il carisma del leader non c'è più, è chiaro che si tratta di fare un partito e questo non è che un, no, io no, credo un momento, che sia un no, bene no, per no, la scusate, esiste anche il carisma del conto in banca. Sì, no, sì. No. Questa no, cito Max Weber. Cito Max Weber, che è Max Weber, sì, per noi ignoranti naturalmente. Spettacolo, il professor Franco Ferrarotti. È un numero uno, no? Assoluto. Numero uno assoluto. Giuseppe dalla provincia di Treviso, buonasera. Buonasera, intanto complimenti per la trasmissione, la sento spesso, grazie, in macchina, grazie. Ogni tanto non condivido, quello succede, chiamo normale. Questa sera solo per un flash, se mi può essere permesso, sì, in merito a due cose che ho sentito, una era un dialogo o comunque su un cognome Pisa Pippa detto da Grillo. Ecco, io credo che storpiare i cognomi degli avversari politici o comunque dei competitor politici non sia comunque corretto, sia un segno di maleducazione politica. Poi abbastanza importante. Per quanto riguarda invece l'intervento dell'onorevole Gasparri, anche lì credo che sia stato un intervento molto al di sopra delle righe, io lo riterrei quasi un killeraggio politico parlare delle tragedie che comunque possono colpire qualsiasi persona. Sì, però Giuseppe, io naturalmente non ho premeditato nulla, c'era qui una telefonata arrivata per caso da Giovanni Favio, Fabio, non mi ricordo mai com'è l'accento, che è consigliere regionale dell'Italia dei Valori e del Movimento 5 Stelle in Emilia Romagna, il quale a un certo punto ha cominciato a parlare della questione di Pisa Pippa, Grillo, eccetera, eccetera. Era in collegamento Gasparri, il quale a un certo punto è partito con questa storia di Grillo e del famoso incidente dell'omicidio colposo, adesso non mi ricordo nemmeno quale sia esattamente l'episodio e la responsabilità che è stata accertata, per cui adesso killeraggio non lo so, però siccome Grillo parla di qualsiasi cosa, anche dei fatti privati delle persone, adesso non è che non si possa parlare del passato, si può parlare anche del passato di Grillo, punto. Poi io non lo faccio, per esempio nelle polemiche con Grillo non lo faccio mai, perché francamente mi sembra una cosa politicamente irrilevante. Sì, Gasparri l'ha voluto fare, che va bene. Volevo solo esprimere il mio parere, semplice parere, su quello che ho sentito. Va bene, ecco. Benissimo. Tanto, grazie di aver avuto la parola comunque. Grazie a lei. Leo, provincia di Roma. Leo, buonasera. Buonasera Gugiani, buonasera. Che succede? Che succede? Mi sente? Sì, la sento. Che succede, caro Leo? Non succede niente, ho sentito l'intervento di Gasparri, questa volta sono riuscito a prendere la linea. Che ha detto Gasparri? Su Grillo, lei si è arrabbiato pure lei. Grillo, sì, ma perché è la solita manfrina. Allora, io volevo solamente dire una cosa, Gasparri è in un partito dove uno dei fondatori, se non il fondatore, è stato condannato per associazione mafiosa. Scusi, chi è? Allora, sta parlando di dell'Utrina. Logicamente. Lui cosa ci sta facendo ancora lì dentro? Non è associazione mafiosa, comunque è concorso esterno, eccetera, eccetera. Ma sempre di mafia stiamo parlando. Sì, ma per carità, non sto... Poi volevo capire anche le altre cose, perché io non penso che solo Grillo ci sia capitato. Sì, però non è che qualcuno ha detto che Grillo è responsabile di tutte le nefandezze del secolo. Era una polemica nata per caso dalla frase di Grillo su Pisapia. Ma il discorso è proprio questo, cioè andare a tirare fuori delle cose che sono successe a Grillo o a qualsiasi altra persona che vada contro il PDL. Ma a un certo punto io l'ho anche detto, guardi Grillo, quella cosa là, si è assunto la responsabilità, ha pagato con la giustizia quello che doveva pagare, punto. Dopodiché se Gasparri ha voluto fare questa polemica col signore Favia dell'Italia del Movimento 5 Stelle, ha fatto questa polemica. Si fanno tante polemiche. Lo so, ma il fatto che di routine, perché qualsiasi persona attacchi il PDL o qualsiasi altra o Berlusconi viene preso subito a... Ma no, ma non è questo, non è così, allora, non è così. Poi, Leo, vabbè. Grazie. No, che voleva dire? Cruciani, sì. Una domanda, perché vorrei... Faccio una domanda, sì. Allora, l'imam, la famosa telefonata dell'imam sulle votazioni di Milano prima... Ma no, basta, è finito, abbiamo già votato, che dobbiamo riparlare di questa storia? Per me era una cosa, vorrei capire una cosa. Lui ha detto che bisognava... che tutti i musulmani devono rispettare le leggi, anche se lui non ha detto allora... che poteva o no. Visto e considerato che Pisapia e tutta la sinistra sono stati accusati di voler fare che Milano sarebbe diventata musulmana al 100%, sì. Ma l'imam, secondo voi, i musulmani per chi hanno votato? Ma che ne so. Grazie Leo, non lo so, non mi interessa perché hanno votato, perché ha votato la comunità musulmana. C'erano diversi candidati della comunità musulmana che appoggiavano Pisapia, ma insomma, come è evidente, non c'è stata nessuna Zingaropoli né Islamopoli, come è chiaro, evidente e lampante. Parenzo, a che punto sei? Ti devo presentare un ospite, devi essere fresco, reattivo. Paolo Ferrero, buonasera. Buonasera. Come va, caro Ferrero? Benissimo. Sono stanchissimo, sono molto stanco, sono molto stanco. Capita a chi lavora. Sì, bravo, poi oggi ho capito perché hai chiamato Ferrero. Perché? Per questa storia di Iazzone. Per la vicenda Iazzone. No, in certo, realtà anche per altre cose, però comunque partiamo da Iazzone. Perché, allora, oggi lei ha detto, anzi ieri, ribadito, oggi, eccetera, che questi cittadini che sono andati lì a prendere le robe, eccetera, insomma, sono da appoggiare o comunque sono da... c'è da esprimere solidarietà nei loro confronti, hanno fatto bene a fare quello che hanno fatto, mentre questi potrebbero essere accusati di un reato. Lei sta sostanzialmente giustificando un'illegalità. Sì, perché penso che l'illegalità vera l'ha fatta Iazzone, perché una ditta che non paga i dipendenti e che non consegna la merce che dei cittadini che hanno acquistato la loro cucina, il loro soggiorno, e quello non gliel'ha data, sia quello l'esproprio fatto, quello è il furto. E il problema è che abbiamo delle leggi in Italia per cui se un pensionato ruba un chilo di pasta al supermercato finisce sotto processo. E se uno ricco fallisce con la sua azienda, magari dopo aver fatto sfracelli, rischia magari 10 o 20 mila euro e tutta la gente se la prende in saccoccia, diciamo, per usare l'italiano. No, però voglio dire, io capisco, però... capisco che la sua posizione possa essere anche popolare, perché uno dice, vabbè, c'è chi ha ordinato mobili, c'è chi ha speso dei soldi, adesso quella merce magari è lì ferma perché c'è la questione del fallimento, eccetera, eccetera. C'è un curatore fallimentare che dovrebbe gestire rapidamente. È vero che ci sono delle lungaggini pazzesche, per carità. Questo è vero. Però se tutti facessero così, Ferrero sarebbe una babele. Cioè, se uno fallisce e poi autorizza i cittadini ad andare a fare l'assalto con i forconi a prendere la roba, capisce che non è bello. È proprio proletario. È solo che È solo che per adesso la cosa che succede è che c'è della gente che mette in piedi delle aziende magari con 20.000 euro di capitale, muove milioni, magari truffa gente per milioni e poi quello il suo capitale se lo tiene, perde i 20.000 euro e chi si è visto si è visto. Io penso che se ci fossero un po' di casi come quello a Iazzone, questo spingerebbe a cambiare le leggi, perché non è possibile che la responsabilità delle imprese sia sostanzialmente a zero, mentre i cittadini che magari già hanno difficoltà arrivare alla fine del mese non vengono tutelati. Cioè, questa è una generalizzazione quella che fa lei. Non è che le aziende non è che chi commette delle illegalità nelle aziende se la cavi sempre. Io sto dicendo una cosa molto precisa, che abbiamo oramai una proliferazione di aziende, scatole cinesi su scatole cinesi, con capitali irrisori. Sì. Che magari assumono, pigliano i finanziamenti, non pagano, poi chiudono, la gente si attacca a quello che sappiamo e fine della trasmissione. Allora c'è un problema. Facciamo più controlli su questo, non autorizziamo i cittadini. Lei ha detto più a Iazzone, lei ha detto magari ci fossero altri casi come questi, forse ci sveglieremmo. Cioè, sta incitando la gente in caso di fallimento a entrare nei magazzini e prendersi la roba. Io penso che se succedesse un po' di cose di questo tipo, il legislatore sarebbe obbligato a smetterla di trattare coi guanti di velluto chi mette in piedi le imprese e poi fa i truschini, e invece a lasciare sul marciapiede la gente che rimane a piedi, perché questo è il problema. No, ma questa è la sua posizione molto molto chiara. Allora, Parenzo, questa è una posizione di Ferrero. Ferrero, su un piano pratico. No, ma è chiarissima, cioè dire, lui dice se tutti i cittadini facessero come hanno fatto quelli di Iazzone, il legislatore si mette paura e accelera le procedure di non so che cosa, o comunque controlla di più le aziende che non possono aprire non avendo capitale sufficiente, eccetera eccetera. Però insomma, Ferrero, questa è una chiamata alla ribellione quasi. Questo è il dire che non si può continuare a parlare d'altro mentre larga parte dell'Italia sta messa malissimo, e di questo nessuno se ne frega niente, a partire dal governo. Perché immagino adesso che il governo con Iazzone non è che sto dicendo che il fatto che il cittadino si ritrovi, o il lavoratore non con lo stipendio non pagato, o che uno magari ha pagato tirando fuori i soldi magari senza averne tante per avere le sue cose e poi non le ha, nelle fasi di sviluppo economico in cui c'è più ricchezza avanti può essere una cosa che si sopporta. Nelle fasi di crisi c'è molta gente che quello fa la differenza tra, diciamo così, tra mangiare e non mangiare. Ora, dunque ci si può fare giustizia da soli, ci si può fare giustizia da soli in alcuni casi. Io penso questo, che ovviamente il problema è evitare che ci siano i casi a Iazzone, ma evitare vuol dire evitare che ci sia uno che si può pigliare i soldi senza darti le cose o non pagarti lo stipendio, e che la legislazione italiana, invece che tutelare unicamente l'impresa, dovrebbe tutelare i consumatori e i lavoratori in modo molto più netto, e così non avremmo le situazioni. Però nel caso specifico, ad esempio, chi rimarrà fregato sono i fornitori di Iazzone, che anche loro meritavano di, come dire, essere risarciti, e siccome non sono andati a rubare, a riprendersi i mobili che avevano pagato, rimarranno fottuti. Esatto. Quindi c'è nella catena di chi aveva diritto, c'è un curatore fallimentare che dice: guarda, la nostra legge prevede così, prima i fornitori, poi i dipendenti e poi comunque chi ha pagato. Ferrero dice 10, 100.000 Iazzone, così alla fine si cambiano le cose. Il fornitore è un poveraccio, questo voglio dire. Faccio presente a Parenzo che oggi mi sono arrivate telefonate di fornitori di Iazzone. Segno che non è che quei fornitori lì di cucine, di altro, che non sono stati pagati, hanno preso quel fatto come un fatto contro di loro. Perché il problema non è la guerra tra i poveri, il problema è anche che se, ad esempio, questa storia dell'accorciamento dei tempi della prescrizione che fa Berlusconi, questo vuol dire una cosa molto semplice, che chi è ricco e c'ha i soldi si paga l'avvocato e arriva fino alla fine del processo riuscendo a stare fuori, e chi invece non c'ha i soldi non riesce nemmeno a rientrare del suo. Allora questo è il problema che pone Iazzone, uno non può non vedere questa cosa. Sì, d'accordo, però la risposta non può essere quella, la risposta non può essere quella di dire lei può avere ragione su tutti i fronti, e naturalmente sono tutte cose di cui si può discutere, cioè quali sono le responsabilità, le aziende, i tempi lunghi e i risarcimenti a chi è stato fregato, chi perde il lavoro, possiamo fare tutte le discussioni all'infinito su questo. Però se uno giustifica il fatto che delle persone aprono dei magazzini e si fregano una roba, secondo me si oltrepassa un limite. Abbiamo il traffico, torniamo subito. cose che poi non mantieni più. Il mio papà è disoccupato e come si farà ad arrivare a fine mese? Chi ci aiuterà? Sei ricca e prepotente, ma sei solo triste, sai. Hai il cuore di un serpente, l'amore. Beh, la devo rimettere, caro Parenzo. La dovevo rimettere in conclusione di questa serata. La dovevo... Sai che più la metti, più mi piace. Mi stai facendo venire fuori l'effetto opposto. Lo so, è per questo che la metto, lo faccio più apposta. La metti, più mi piace. Allora, abbiamo anche concluso sulla vicenda, Aiazzone. Ferrero dice: più casi Aiazzone, così le cose potrebbero cambiare. Questa è la sintesi di quello che ho detto, di quello che abbiamo detto, anche se non abbiamo detto solo questo. Senta, Ferrero, lei ha saputo questa vicenda della canzoncina che gira su YouTube di bambini che cantano queste cose che lei sta sentendo contro Berlusconi? No, non l'avevo sentita. Non l'aveva sentita. Le sembra una cosa normale che si possa far cantare una canzone del genere, a prescindere dal fatto che sia contro Berlusconi, eccetera? Nella società Berlusconi è diventato un fenomeno di società, non solo un fatto politico, e quindi mi sembra normale che questo succeda. Le sembra normale? Cioè, non le sembra uno scandalo il fatto che i bambini vengano istruiti a cantare delle canzoni del genere contro Berlusconi, con parolacce, cose violente contro... Adesso, ripeto, io la canzone non l'ho sentita, ma ripeto, la pervasività, diciamo così, del fenomeno Berlusconi è tale che non mi stupisce che generi anche questo tipo di cose. Cioè, è colpa di Berlusconi? Diciamo che Berlusconi ci mette del suo per essere, come dire, per mettere il petto in prima fila e fare battaglie fortissime. Forse c'è, anche i bambini capiscono che tagliare i soldi alle scuole pubbliche non è una cosa positiva o cose di questo tipo. Cioè, scusi un attimo, per esempio lei, quel bambino che è andato al Palasharp, se lo ricorda, no? Di 12-13 anni, è portato su un palco a fare un comizio contro Berlusconi, è una cosa che ha apprezzato? Farei. Lei lo farebbe con i suoi figli? Io non lo farei, ripeto. E quindi, però mi sembra, ripeto, normale che sul complesso dell'Italia un uomo come Berlusconi, che costruisce regolarmente il conflitto su di sé in modo determinato, conflitto politico, no? Sì, io penso francamente che sia un effetto della degenerazione della politica, sia questo elemento di accentuazione così esagerata del conflitto su di sé, sia tutto quello che determina, per cui probabilmente però se c'è una differenza tra Berlusconi che fa una battaglia politica e un signore, per carità, stiamo parlando di un signore, non di un partito politico, che però ha reclutato dei bambini. L'altro giorno era sulla prima pagina di Libero, sua figlia e amici, eccetera, ha fatto cantare un testo di una canzone, l'ha postata su YouTube, una canzone che lei ha appena sentito, una canzone molto violenta con delle parolacce, buffone, pezzo di M, eccetera, eccetera, nei confronti del Presidente del Consiglio. Ma ripeto, questo Presidente del Consiglio potrebbe essere anche un altro, però è evidente che nei confronti di un altro questa cosa non si genererebbe, e non è la stessa cosa, Ferrero. Cioè, queste cose, l'utilizzazione dei bambini per questo tipo di scopi va condannata tout court, senza pensarci due volte. Le dico che, essendo che stiamo in un comparto che è il comparto dell'etica e dei comportamenti individuali, non siamo nel campo di altri comparti, io personalmente non farei questo con i miei figli, e penso che i miei figli debbano pensare con la loro testa e avere l'età per pensarlo. Bene. Detto questo, penso che sia per certi versi normale che succeda, non lo considero un fattore positivo, ma penso che sia normale che succeda in questo clima in cui, per l'appunto, la personalizzazione della cosa è così forte. La seconda cosa che le vorrei far notare è che molte delle cose che indossiamo o delle scarpe che calziamo sono costruite da bambini, fabbricate da bambini che forse 13 anni non ce li hanno. Su questo non siamo così sensibili a fare trasmissioni sul lavoro minorile quanto invece su questo. Forse bisognerebbe bilanciare, diciamo, tutte e due. Io sono molto d'accordo con lei, evitiamo le canzoncine di questo tipo ai bambini di 13 anni, evitiamo che siano a lavorare al lavoro nero, diciamo, bambini. Sì, quello è un problema più ampio, come lei sa, che ha a che più fare ampio, più beh ampio, no, è un problema più ampio, è un problema. No, per carità, ma io non lo sto banalizzando, però adesso non mi può fare il confronto tra un signore che fa cantare una canzone di odio nei confronti di una persona. Ma è una scelta privata di ma un sì, certo, che il problema che pone Ferrero è un problema mondiale di grandissima, come dire, importanza. che non può essere paragonata a una cosa piccola come questa. Assolutamente, cioè, essendo piccola, secondo me è abbastanza strampalato che si occupi lo spazio dell'informazione del dibattito su questa cosa piccola, quando insomma, i problemi veri sono altri. Perché questo appunto sta nel fenomeno, come ci sono sempre, del costume, delle cose, robe così, insomma, da sì, rotocalco, ma sì, non vedo sta roba pazzesca. Beh, insomma... Ma scusami, è più grave questo o una supposta ragazza minorenne che frequenta Arcole? Ma che c'entra? Ma sono due casi diversi. Ma non so, ma io chiedo, me ne abbiamo parlato per mesi di quelle vicende lì, ma è evidente che... No, io lo dico al nostro amico Sgarbi, perché se c'è la libertà di questa ragazza minorenne... Ma che c'entra adesso? Perché hai tirato fuori questa storia? Di andare ad Arcole, di emanciparsi e di andare ad Arcole... Ma non puoi non fare la differenza tra ragazzi di 17 anni e bambini reclutati di 6-7 anni, sono due cose completamente diverse. C'è la libertà di educazione, perché non sai, non stato comunista in cui c'è lo Stato che ti dice cosa devi insegnare ai tuoi figli. Per fortuna siamo in uno Stato in cui ogni genitore decide liberamente. Io non avrei mai insegnato una sciocchezza simile a mia figlia. Decide cosa insegnare. Il cattivo gusto si aggiunge al fatto che questo signore ha postato su Facebook questa roba. Vabbè. Ma non c'è una regia politica, quindi non vabbè, purtroppo la settimana si è conclusa con questa polemica, che spero che finisca con il venerdì sera. Magari farà altre canzoncine questo signore. No, speriamo di no. Caro signor Ferrero, la ringrazio molto. Le faccio dottore, ma non lo sono. Le faccio un saluto e spero che di parlare la prossima volta di cose politiche, di magari accordi con il centro-sinistra, chissà. Va bene. Next time, ci sentiamo la settimana prossima. Parenzo, come va? Tutto bene? Sei arrivato? Sì, ma noi ci sentiamo nel weekend. Sì, per forza, per forza. Ci messaggiamo? Ci messaggiamo, sì. Ti chiamo al 335. Tienimi aggiornato, che non è 335, comunque. Ciao. Ciao. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa. Non mi preoccupare. Radio 24. La passione si sente.